Feci l'intervento in Parlamento europeo a febbraio, avevo i dati del 2012, vedete che eravamo sostanzialmente sotto i 2.000 miliardi di debito pubblico. Vedete anche come sostanzialmente dal 2007-2008 sono botte che vanno dai 70 ai 100 miliardi di incremento del debito pubblico. Allora, tanto per farci un'idea, 100 miliardi è il costo del servizio sanitario nazionale. Cioè, il debito pubblico si sta incrementando anno dopo anno del costo del nostro servizio sanitario nazionale. Che sappiamo non essere tutta la spesa pubblica. Allora, vediamo anche di capire noi come ci posizioniamo in questo, perché soltanto attraverso questa comprensione riusciamo a capire cosa possiamo fare e da cosa dobbiamo difendere, proteggere il servizio sanitario pubblico italiano, che sicuramente è un grandissimo risultato di civiltà e anche perché se ne dica di efficienza. Questa è la situazione, il rapporto debito pubblico e PIL nei paesi europei. Vedete, soltanto la Grecia ci batte. E abbiamo presente cosa è successo in Grecia. Se qualcuno di voi ci è andato, avete chiaro? I dipendenti della radio televisione greca licenziati tutti. Non è che siamo molto distanti, eh? 2 anni fa non c'erano, lo Stato non aveva i soldi per pagare le tredicesime del comparto pubblico. Avete visto che nell'ultimo anno abbiamo accumulato, in realtà non anno ma 10 mesi, circa 100 miliardi di euro di disavanzo, nonostante le manovre che sono state messe in piedi prima dal governo Monti e poi dal governo Letta, nonostante l'aumento dell'IVA che quindi va ad abbattersi sugli scambi commerciali e sulla produzione, che con un'IVA che è la più alta nei paesi europei. Questa è la previsione dell'Istat del PIL del 2013-2014. Dopo, come vedete, la grande crisi 2008-2009 tirata su un po' la testa nel 2010, ma è quello che in borsa viene chiamato il salto del gatto morto, nel senso, se si fa cadere un gatto morto dal 10° piano, quando arriva per terra rimbalza un po', ma non è che sia vivo perché salta. Può essere rianimato forse con interventi molto pesanti. La previsione del PIL 2003, dell'aumento del PIL del 2014 è sull'ordine dello 0,7. Quelle scale di grigio sono la variabilità delle previsioni. Quindi aumento del debito pubblico, riduzione del prodotto interno lordo. Tant'è che la quota di servizio sanitario sta aumentando, mentre era il 6, adesso siamo oltre il 7% del PIL. Ma è chiaro che le due operazioni si stanno potenziando. E poi c'è questa. L'aumento della disoccupazione. Come vedete, qua è rappresentata la disoccupazione nelle diverse fasce d'età. Non è che sia stravolgente, ci sono i cinquantenni, sono a casa. Se guardate bene, anche 95, 96, 97, 98, la situazione era particolarmente critica. Ma non c'era un problema di debito pubblico di queste dimensioni, era meno della metà. Da una parte, e dall'altra c'era un incremento del PIL che era di 4 punti percentuali. Tenete presente che nei paesi emergenti, vuol dire la Cina fino a 2 anni fa, o il Brasile fino all'anno scorso, cresceva di 2 cifre. Quindi questi si stanno potenziando, è un avvilupparsi. Allora, questo è l'incremento del 2012, come vedete l'Italia è sempre stata un po' sopra alla media europea dei paesi a 28, non dei paesi a 15, dell'Unione Europea a 15, quindi compresa Romania, Bulgaria, Polonia. Quindi la situazione generale è estremamente critica, tant'è che questo lo dico in tutti i contesti, prepariamoci a una possibile importante manovra di contenimento dei costi del pubblico, della spesa pubblica, perché è pressoché inevitabile. La Thatcher 20 anni fa ha licenziato 500.000 dipendenti pubblici e riversato quei soldi sul mercato privato per poter avere una maggiore occupazione sul mercato privato. La Grecia, l'abbiamo detto prima, qua ci saranno due possibili vie se non si riesce a contenere questa slavina del debito pubblico: o una riduzione trasversale degli stipendi su tutto il comparto, o andare a inserire, a attivarsi come ha fatto la Grecia con l'Inghilterra 20 anni fa. Allora uno dice: in questa situazione che sui numeri è assolutamente drammatica, come mai non abbiamo la rivoluzione in piazza? Sì, i forconi sono un segnale, sono un primo segnale. Forse non è questa la scintilla che fa scoppiare l'incendio, forse sarà una fra 6 mesi, forse fra un anno. Da parte con un'evoluzione di questo tipo, ne vedrete un altro dato. Allora, l'uso estensivo della cassa integrazione sta tamponando, però si esaurisce. Avete visto l'incremento della disoccupazione, quelli erano prima occupati, diventati disoccupati, hanno la cassa integrazione, ma la cassa integrazione ha un tetto, si parla di cassa integrazione ordinaria e cassa integrazione in deroga, si stanno consumando tutti e due. La rete di protezione familiare, sì, questo avviene soprattutto in alcune regioni d'Italia, per esempio quelle del sud, hanno ancora questo tessuto importante, vedremo poi alcune considerazioni, e il fatto che l'Italia e i paesi latini in genere rispetto ai paesi anglosassoni hanno una tendenza al risparmio e quindi c'è un accumulo di risparmio privato che è molto significativo, adesso lo vedremo, che è quello che ha fatto dire negli anni scorsi: ma di cosa ci preoccupiamo? 2.000 miliardi di debito pubblico, ma ci sono oltre 8.000 miliardi di risparmio privato che tampona. Andiamo a vedere. Allora, la stima della ricchezza al 2012 è 8.542 miliardi. È vero? Però non è che possiamo trastare, non è che possiamo dire ogni italiano, dopo vedremo, da un quarto, come in tempi di guerra in cui si dava l'oro e si poteva l'oro per lo Stato, da un quarto del suo patrimonio, e così spegniamo il debito pubblico o lo riportiamo in condizioni adeguate. Perché nell'ultimo anno, per la prima volta, il risparmio privato ha avuto una riduzione, 77 miliardi, quindi abbiamo i 100 miliardi dell'incremento del debito pubblico, ma una significativa erosione del risparmio privato. Di questi risparmi, come vedete, i 2/3 sono rappresentati da attività reali, la casa. Gli italiani, oltre il 70% hanno la casa di proprietà, e questa è una sicurezza sociale, chiaramente. E in parte di attività finanziarie. Come vedete, nel primo semestre 2016 ulteriore diminuzione dell'1%. Il risparmio è sceso per il 7° anno consecutivo. l'annuale. Allora, è chiaro che va a Herodes, ma basta guardare in giro i compro-oro. Signori, i compro-oro non sono una trasformazione di beni perché l'oro è un bene obsoleto, è un bene che ha dimensioni effettive in genere, è un bene rifugio. Quindi questi compro-oro, oltre ad essere occasione di ricettazione, che se ne voglia dire, piuttosto che tutte le lotterie che si stanno sviluppando online e offline, sono un segnale di rete. Sì, ecco, questo ultimo dato importante per la situazione macroeconomica è che il 45% della ricchezza netta è posseduta dal 10% degli italiani. Cosa porterà questa evoluzione? Che ci saranno italiani sempre più ricchi e italiani sempre più poveri. I sussidi familiari, i sussidi alimentari in comuni da 15-20 mila abitanti ormai ammontano, per italiani e non per extracomunitari, a centinaia di pacchi che le persone vanno a prendere in genere di notte. Perché ovviamente c'è anche una questione di vita. Allora, sì, vabbè, adesso abbiamo i forconi, magari anche così suggestivo il termine forconi, e forse non è in questo momento così drammatico, perché ci sono questi sistemi tamponi. Però questo non toglie nulla alla enorme gravità della situazione. Allora andiamo a vedere noi quanto c'entriamo in questo. Quanta causa abbiamo, quanta responsabilità abbiamo, perché quando dopo, più tardi, appunto, il direttore sanitario Toscano Pico vi parlerà della responsabilità etica della spesa, molte volte si dice ma la salute non ha prezzo, sì, non ha prezzo ma ha costi, che si confrontano con gli altri strumenti, gli ammortizzatori sociali, i sussidi alimentari, la possibilità di garantire la scuola, oltre che la salute. E come vedete, dal 2006 in poi, fino al 2012 sostanzialmente, seppure in maniera decrescente, c'è stato un incremento del finanziamento, finanziamento pubblico del Servizio Sanitario Nazionale. Quest'anno è il primo anno in cui c'è stata una riduzione del finanziamento. Si ipotizza nel 2014 che possa incrementare, io non ci credo. Quei dati, come sì, per carità, i piani finanziari pluriennali nel 2009 potevano anche ipotizzare per dare speranza, francamente non ci credo. Stiamo parlando, come vedete, di 106 miliardi di euro. Vi ricordate il debito pubblico? Vi ricordate la riduzione del risparmio delle famiglie? Allora, al di là, insomma, della spesa sanitaria pro capite, che è un dato che tutti quanti voi sicuramente conoscete, e il rapporto spesa sanitaria totale PIL, che come dicevo sta aumentando, perché sta riducendo il PIL, non perché aumenta il finanziamento. Allora, di quanto siamo responsabili noi di questo disavanzo? Ma come vedete, l'analisi che anche precedente è partita dal 2001, in fondo ci mostra come a livello sanitario nazionale noi siamo responsabili di un 40 miliardi. Mettiamoci pure gli oneri finanziari, mettiamo pure che siano raddoppiati, perché nel 2004 era stato sforato di 6 miliardi e 4, e quindi là ci sono anni di interessi passivi. Mettiamo pure 80 miliardi, mettiamo pure 100 miliardi, però non è certo per il servizio sanitario che sta sfondando la spesa pubblica. Andiamo a vedere nelle regioni, ho concluso, dopo. Nelle regioni, risultato di esercizio dei sistemi sanitari regionali nel 2012, l'89% del disavanzo totale è accumulato su 3 regioni, che in realtà stanno peggiorando, mentre le altre stanno recuperando, perché come solito, no? Un'azienda fallita non può che drammaticamente peggiorare. Se sei in equilibrio, gli interventi hanno un loro effetto. Se voi togliete quelle 3 regioni, in realtà la spesa sanitaria nazionale è sostanzialmente in equilibrio, sicuramente non in situazioni preoccupanti. Allora, cosa ci dice? Questo è lo spunto di lettura mia e vostra della giornata e del contesto in cui viviamo. Ci troviamo di fronte a un'evoluzione della nostra nazione che sta, se andrà avanti così, e è difficile che non vada avanti se non ci sono interventi drastici, forse drammatici, verso un allargamento dello spettro della redditività dei nostri concittadini. Ci saranno italiani più ricchi e sempre più ricchi, italiani più poveri e sempre più poveri. Lo stiamo vedendo in alcuni servizi sociali, per esempio quelli di età evolutiva, che in tutto questo la sanità non è così responsabile, se non fosse per il fatto che anche a livello centrale e regionale alcune regioni hanno perso assolutamente il controllo, e purtroppo Lazio, Sardegna e Campania, ma soprattutto il Lazio, come vedete, è una voragine terribile. L'unica cosa sensata sarebbe dichiarare fallito, chiudere. È chiaro che è un dramma per quelle realtà, per quei fornitori, però questo riporterebbe in equilibrio o potrebbe far guardare avanti sul servizio sanitario pubblico. È chiaro che più si allargheranno le fasce di popolazione, più ci sarà bisogno di servizio sanitario e sociale. Quindi ci troviamo di fronte a questa situazione: i bisogni aumenteranno, i bisogni reali, le disponibilità inevitabilmente saranno contenute, e la responsabilità è, cioè, noi subiamo un contesto più alto. Allora è chiaro che dobbiamo guardare fuori, è chiaro che dobbiamo guardarci attorno, e questi dati dobbiamo, se vogliamo proteggere e difendere il servizio sanitario, e lo proteggiamo, uno, conoscendo questi dati, e due, rendicontando ogni euro che investiamo, facendoci carico di documentare, dichiarare, esporre, confrontarci per ogni euro che investiamo. Io ho fatto il libro bianco, è pubblicato, è disponibile a tutti, pronto a qualsiasi confronto. Possiamo migliorare, sì, certo, e tanto, noi lo sappiamo, però lo affrontiamo con un momento di condivisione con il resto del mondo. Terzo, che non ci confrontiamo solo all'interno del contesto sanitario e sociale. I problemi non sono soltanto se è meglio questa terapia piuttosto che quest'altra, questo percorso diagnostico piuttosto che quest'altro, questo è più economicamente sostenibile piuttosto che un altro, ma ci confrontiamo con il significato di quell'euro che noi investiamo in sanità nei confronti dei sussidi alimentari, dei sussidi lavorativi, e speriamo anche che non vadano a intaccare situazioni assolutamente importanti e strategiche per la coesione sociale, che sono la scuola e la sanità. Allora, non vuole essere un intervento deprimente. Vuole essere un intervento oggettivo, guardiamo in faccia la realtà. Noi abbiamo sicuramente fatto molto, avete visto le regioni, i servizi sanitari, avete visto il contesto, avete visto anche il contesto della spesa sanitaria rispetto al resto. La maggior parte di quel debito che aumenta sono interessi passivi nei confronti di soggetti vari, però proprio perché siamo in questo contesto dobbiamo farci carico, secondo me, della dimensione anche etica e non soltanto amministrativa, che è la mia componente prevalente, di rendicontare e di dare una lettura dei nostri investimenti in un contesto più ampio. Grazie. Io avevo, ma credo ancora ho, mezz'ora di tempo, cercherò di essere molto sintetico. Vi annuncio già che il dottor Marcolongo, che attualmente ha un'importantissima responsabilità nella regione di Venezia Giulia, non può venire, mangeremo tutti qualche minuto della sua relazione. Il titolo è questo. Nell'intervento che faccio adesso, che sto per fare, vorrei fermarmi soprattutto sui bilanci. Sulle prospettive accennerò qualcosa, ma siccome c'è una tavola rotonda alla fine, sarà quella che apre verso il futuro. Brevissimo. Questa esperienza del nostro Comitato Etico per la Pratica Clinica si colloca all'interno di una storia che è iniziata nel 1993 qui a Padova, con il Comitato Etico di Pediatria, che ha 30 anni. Di solito si ricorda questo e non si ricorda un altro Comitato Etico, che era quello del Centro Oncologico Regionale, che è sorto l'anno dopo. La premessa più specifica alla nostra esperienza nasce nel 96, quando il direttore generale dell'azienda ospedaliera istituisce il servizio di bioetica, tuttora funzionante. Poi nel 99 la Regione istituisce in via sperimentale il Comitato Regionale e nel 2004, con un documento elaborato anche e soprattutto direi dal Comitato Regionale, viene istituita quella che si chiama la rete dei Comitati Etici del Veneto. Il nostro Comitato viene istituito poco dopo, come in quasi tutte le aziende della Regione, nel 2006. Nel 2009 il rinnovo del mandato e adesso questo mandato termina con il 31 dicembre. Accenno a quali erano allora, 96, le funzioni del servizio di bioetica, soprattutto perché al punto D aveva proprio la funzione di preparare la costituzione del comitato etico dell'azienda ospedaliera, in anticipo anche rispetto alle riflessioni regionali. Quali sono i compiti del comitato etico per la pratica clinica? Sono tre, perché sono indicati nella delibera regionale, e torneremo su questi tre aspetti: l'analisi dei casi, lo sviluppo di regole e indirizzi operativi e la funzione formativa. Sono in fondo poi le stesse tre funzioni che abbiamo, forse si riuscite a vedere, per il servizio di bioetica. Richiamo brevemente questo aspetto perché è bene capire qual è il proprium del comitato, di tutti i comitati etici e in particolare tutti quelli per la pratica clinica, che non hanno né una funzione legale né una funzione disciplinare e neanche, sottolineo questo, una funzione decisionale. I comitati etici per la pratica clinica operano in qualità consultiva, questo dice la DGR regionale, e non si sostituiscono nelle decisioni della decisione che deve essere assunta dai soggetti coinvolti, e ho indicato pazienti, operatori sanitari, quindi anche pazienti, e poi lo riprendiamo. Non si sostituiscono, e a me pare che sia il cuore dell'eticità dei nostri comitati, perché se noi dicessimo che cosa si deve fare ai colleghi, o se noi dicessimo che cosa si deve fare ai pazienti, certamente non assumeremo un atteggiamento di carattere etico. Ricordo che i comitati etici per la sperimentazione hanno un'altra funzione, hanno una funzione deliberativa, ma entrano nel merito degli aspetti tecnici. Questi sono alcuni passaggi, io non mi soffermo a leggerli, che ci sono nel regolamento del nostro comitato, che ha ripreso queste indicazioni della Regione. Sottolineo che ha una composizione multidisciplinare. La differenza fra la deontologia e l'attività deontologica di un ordine professionale e il comitato etico sta nel fatto che gli ordini professionali lavorano al loro interno e hanno un codice deontologico che definiscono loro stessi, mentre invece un comitato di bioetica ha una composizione multidisciplinare e comprende non solo le competenze sanitarie, non solo gli addetti ai lavori cosiddetti sanitarie, anche altre scienze umane, e non solo professionisti, perché ci sono anche rappresentanti di associazioni di volontariato nell'ambito sanitario. Faccio un'altra indicazione: nel comitato etico di pediatria ci sono dei genitori che hanno vissuto nei confronti dei loro figli problemi di carattere etico e hanno sempre svolto in questi 20 anni una funzione insostituibile e del tutto qualificante. Le figure inizialmente presenti, ve le vedete, non mi soffermo, semplicemente le prendono quello che ho accennato prima. Ricordo invece che nel corso della sua attività il Comitato Etico per la Pratica Clinica della nostra azienda ha ritenuto necessario inserire delle figure proprio perché nasceva dai problemi che di volta in volta si ponevano e a livello di presidi su casi particolari e a livello forse anche e soprattutto di impegni di carattere più generale. Quindi attualmente nel Comitato Etico dell'azienda vi è della sicurezza, il responsabile della sicurezza del paziente, il responsabile, anzi l'atto che sono tutte le donne, del gruppo e la responsabile qualità. Poi c'è stato un problema di collegamento con il comitato etico di pediatria, perché altrimenti la tendenza poteva essere di unificare tutto e quindi anche il comitato etico di pediatria venire conglobato in quello dell'azienda ospedaliera, perché la norma regionale prevedeva che ogni azienda avesse un solo comitato. Ma la specificità del comitato etico di pediatria era tale per cui giustamente è stata mantenuta autonoma, ha assunto addirittura una valenza regionale e però si rendeva opportuno e anzi indispensabile un collegamento, ed ecco che è entrato un pediatra. E poi a un certo momento ci siamo resi conto che mancava una figura fondamentale, che è quella dell'oncologo. Voglio dire a questo proposito che sempre ci sono problemi che riguardano competenze non necessariamente comprese nei membri del comitato e di volta in volta si può chiedere, come è stato fatto, la collaborazione, l'intervento, ma sul problema oncologico, il problema oncologico è così frequente, così specifico, che si è ritenuto necessario con grandissima soddisfazione di tutti, con una ricchezza di apporto, per cui occorre proprio insistere in questa prospettiva. Questo è l'inquadramento. Adesso vediamo le esperienze operative. Ho detto prima che oggi non parliamo di teorie, ma parliamo di esperienze. Le esperienze operative del nostro comitato etico. Vi ricordate le tre finalità? La valutazione di casi particolari, l'elaborazione di linee di indirizzo e la formazione. Preferisco decisamente cominciare dall'ultima, dalla formazione. Senza la formazione un comitato diventa un gruppo di tecnici più o meno illuminati, non c'è nessun contatto con gli operatori sanitari, quindi cominciamo da qui. La formazione degli operatori attraverso seminari e corsi di sensibilizzazione che si sono svolti in questi anni, dal 96 in poi, mi pare che siamo arrivati intorno a 1000 operatori sanitari dell'azienda che hanno partecipato a corso base e qualche volta anche al corso avanzato. Questo diciamo come iniziativa specifica del servizio di bioetica che poi è stata recepita dal comitato. E poi ci sono state tutta una serie di richieste di enti, di gruppi, di strutture all'interno dell'azienda che hanno chiesto interventi in collaborazione. Ma c'è un'altra formazione da tenere presente, è l'autoformazione, la formazione di chi lavora nei comitati. Nessuno può improvvisarsi o pretendere di essere esperto di questo, né il medico, né l'infermiere, né nemmeno il dieticista, il filosofo, perché occorre fare confrontarsi con le situazioni concrete. La necessità di una formazione richiede quindi dei tempi, non si può avere fretta. I primi mesi, direi i primi anni di lavoro, di comunità, nella pratica clinica devono concentrare l'attenzione sulla formazione. Non si può arrivare lì avendo in mano la verità e pretendendo di imporla agli altri. E questo è un lavoro difficile, perché siamo tutti abituati a ritenere di essere nel giusto. Allora, nella fase iniziale di lavoro ci siamo esercitati su casi già avvenuti, su casi che erano arrivati al servizio di bioetica, e poi man mano i casi che seguivano, nell'abituale esperienza del lavoro interdisciplinare, si crea un gruppo che non sopprime, che non soffoca le competenze specifiche e professionali, ma un gruppo che sa confrontarsi e che sa anche rivedere le posizioni di partenza di qualcuno. Immaginate che siamo fatti tutti in maniera diversa, che c'è qualcuno che è più direttivo, qualcuno che è più che è portato ad accettare, a subire le posizioni di altri perché sono più autorevoli, perché hanno una cultura maggiore. No, invece occorre che ognuno si confronti con gli altri e si lavori insieme. Vorrei dire a questo proposito che praticamente non vi sono mai stati momenti in cui si è realizzato uno scontro forte di opinioni diverse, partendo da opinioni anche diverse. Quasi sempre, io ricordo forse uno o due casi in cui vi è stata legittima l'espressione di una differenza di posizioni, ma in tutti gli altri casi questo lavoro ha consentito di convergere verso una valutazione che è più facile proprio perché non impone una risposta, può essere una risposta articolata di proposta. Allora, questa è la formazione, ho accennato brevemente, però vorrei per questo non darvi l'idea che sia una cosa secondaria, l'ho messa al primo posto. La seconda, la richiesta, l'analisi delle richieste e la formulazione dei pareri. Ancora nel nostro regolamento si dice che sono interventi pianificatori a favore degli operatori, delle persone malate e delle loro famiglie. Questa è un'altra dimensione che di volte in volte è stata coltivata e poi accenderemo. Questi pareri, lo richiedo, devono essere conformi ai principi di bioetica, deontologici, di buona pratica clinica, a tutela della dignità, il primo punto, un valore dell'identità e del benessere della persona. Allora, quali principi di bioetica sono quelli di riferimento per l'analisi dei casi e la formulazione dei pareri? Mi è venuto in mente di fare riferimento a, qui lo accenderò ormai dopo sull'urgenza degli interventi, ma lo vedremo forse anche nella discussione. Quali sono i principi di riferimento per imparare l'analisi delle richieste? Io mi sono chiesto, e ne abbiamo parlato con i colleghi del comitato, facciamo un elenco di casi e diciamo quanti casi ci sono stati, quanti sono andati bene, quanti sono andati male. Non aspettatevi questo. La questione è così delicata che non si può banalizzarla e trasformarla in termini quantitativi o giornalistici. Mi sono chiesto, cerchiamo di vedere i casi che di volta in volta, i quesiti che di volta in volta sono stati proposti e come possiamo inquadrarli. Allora, esiste un testo classico che risale al 79 di Beecham e Chalmers che avevano identificato quelli che credo tutti conoscono i principi della bioetica, indicandoli in questi termini: principio del rispetto dell'autonomia, principio di non maleficità, principio di beneficità e principio di giustizia. Allora, vediamo se possiamo indicare alcuni esempi, alcuni casi che si collocano all'interno di questi principi, che poi non sono tra loro separati unicamente, per cui necessariamente ci sono riferimento uno all'altro, spesso anche ci sono dei principi che sono più dell'altro, però ho pensato di proporvi alcune considerazioni. Allora, l'ipotesi è questa: rileggiamo questi principi e vediamo qual è stato il ruolo del comitato etico. Partiamo dal principio dell'autonomia. Credo che questo sia veramente il primo a cui fare riferimento, poi c'è anche quello di giustizia, vedremo, ma il principio dell'autonomia oggi è l'elemento che deve concentrare l'attenzione in una classe professionale, in classi professionali, in particolare quella medica, abituate a dire si deve fare così, questo è bene per il paziente, dirlo anche in maniera assolutamente positiva. Sono io che ti dico qual è il bene per te, operarti, non operarti, assumere una certa terapia oppure no. Ecco, questo è quello che si diceva in paternalismo, si dice che è superato, ma non si può dimenticare perché esiste la competenza allora, scientifica, clinica, e tuttavia l'attenzione oggi non può che essere concentrata subito sul principio di autonomia, che vuol dire rendere la persona malata responsabile, consapevole delle proprie decisioni. All'esterno. Ma questo principio di autonomia rischia di essere tradotto in un abbandono. Devi decidere, decidi quello che vuoi e poi farò, che sei io. Un abbandono del paziente, della persona malata, e anche un venire meno alla responsabilità dei medici e altri medici, gli altri soprattutto dei medici, che finirebbero per essere degli esecutori acritici di queste indicazioni. Allora, il concetto di autonomia è autonomia relazionale, cioè in una relazione, lasciando poi alla fine la scelta al paziente, occorre non abbandonare il paziente stesso, occorre lavorare con lui. Perché c'è un'ignoranza, c'è una mancata conoscenza che deve essere insieme verificata. L'attenzione familiare, lo accennavo prima, è quella che Paolo Zatti chiama costellazione sociale, cioè vedere chi c'è intorno. Chi c'è intorno che può essere di supporto o chi c'è intorno che può essere invece di disturbo. Pensiamo anche ai media che danno delle indicazioni tassative, internet diventa la consultazione più frequente, che però non è espressa in termini corretti, non è in termini adeguati alla situazione. Io vorrei solo accennare a questo punto alla questione stamina, che sta diventando veramente disastrosa, ma coltivata a spese di persone che hanno dei familiari realmente sofferenti, ma condizionate da tutta una serie di indicazioni. Allora, attenzione a questi fattori che possono interferire e ricerca di aiuto da parte dei familiari e di chi vuole il bene dell'interessato. E naturalmente il principio di autonomia può essere anche in conflitto con le indicazioni della scienza, cioè il paziente può decidere, può chiedere una certa prestazione che non corrisponde a quello che scientificamente e clinicamente potrebbe essere desiderato dalla che è proposto da chi opera in questo ambito. Esempi, vi faccio alcuni casi. Un caso in cui un paziente affetto da sclerosi laterale amiotrofica aveva chiesto di non essere tracheostomizzato e attraverso l'assistenza molto qualificata del neurologo che seguiva da tempo, che gli ha consentito di esprimere la sua valutazione, che poi l'ha espressa nel momento in cui il paziente è stato ricoverato e nelle esigenze dell'urgenza stava per essere tracheostomizzato, è stata rispettata la sua decisione. E quindi il principio di autonomia, meditato da tempo, ha ottenuto il suo riconoscimento. Un altro caso che riguarda un paziente di competenza reumatologica affetto da una patologia molto dolorosa che aveva contratto, anche che aveva manifestato una neoplasia per la quale la terapia contro il dolore era stata sospesa e che non poteva essere ripresa secondo le linee guida perché c'era il rischio che questa neoplasia riprendesse. In un colloquio con i familiari, con l'interessato, l'interessato ha dichiarato che preferiva avere un'adeguata terapia del dolore piuttosto che continuare a soffrire nell'ipotesi che domani potesse riprendersi questa neoplasia. Io mi scuso perché sono casi che meriterebbero ciascuno almeno una mezz'ora di tempo, però li accenno come esemplificazione. Un altro caso in cui l'autonomia è stata favorita attraverso la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno, non visto come figura burocratica, ma visto come un familiare al quale l'interessato dava fiducia e al quale consegnava la propria esigenza di poter fare una scelta autonoma e responsabile. E poi c'è un caso al quale io vorrei dedicare tanto tempo, ma che proprio temo di banalizzare accennandolo, però ve lo accenno: nel caso di un paziente ancora relativamente giovane, di una persona ancora relativamente giovane, affetto da molti anni da una distrofia fascio-scapolo-omerale, che dopo molti pensamenti, dopo aver chiesto di non essere tracheostomizzato e invece è arrivato in pronto soccorso, è stato tracheostomizzato, è stato mantenuto con il supporto vitale, a un certo punto ha chiesto che questi venissero a cessare. E in una lunga e molto formativa riflessione all'interno del comitato si è deciso di ritenere etica la sua richiesta, che è stata poi realizzata come lui voleva. E questo caso lo ricordo perché è stato di grande turbamento per molti di noi, e tuttavia la decisione finale è stata una decisione presa all'unanimità. Il secondo principio è quello di non maleficità, vuol dire non devo fare il male, tradizionalmente il primo non c'era. Come lo rileggiamo oggi? Oggi lo rileggiamo non solo nel senso che devo dargli qualcosa che mi faccia male, ma per esempio il tema di accanimento terapeutico, cioè continuare a trattare come in prestazioni non necessarie e fonte di sofferenza, è rispettare il principio di non maleficità. Può essere in conflitto con il principio di autonomia, nel senso che il paziente può chiedere di continuare a trattarlo quando questo può essere non solo indifferente, ma addirittura dannoso per lui. E qui si impone la necessità che in un colloquio sereno, senza fretta, gli operatori sanitari spieghino il significato di questo. Un paio di esempi anche qui. Un figlio che pretendeva per la madre un trattamento assolutamente inutile e fonte di dolore, si è imposta la necessità di lunghi colloqui con questa persona fino a che ha accettato l'impostazione clinica. La medicina difensiva, oggi straripante, che può essere fonte di sofferenza, di comunque sia di turbamento, di insistenza con atti invasivi, pensiamo non solo a livello diagnostico, ma anche a livello, non solo a livello terapeutico, ma anche a livello diagnostico. E quindi argine a questo tipo di trattamento. Il colloquio con i familiari, paziente incapace di esprimersi, colloquio con i familiari che vorrebbero resistere legittimamente, naturalmente è una cosa che tutti vorremmo in questi casi, ma riuscire a convincere che la scelta più opportuna è quella di non insistere in un determinato trattamento. Il principio di beneficità è quello di fare il bene. Questo è il principio tradizionale dell'attività medica, per fare il bene. Più in generale, gli operatori sanitari sono lì per fare il bene. Allora, questo non va contro l'autonomia e spesso si identifica in situazioni in cui il paziente è incapace, quindi non ha espresso desideri precedenti, è incapace di esprimere la propria volontà e quindi il medico deve provvedere. O nelle condizioni di urgenza, l'urgenza non giustifica l'ignoranza, il mancato interpello del paziente, se è grado di esprimersi, va rispettato, però in condizioni di urgenza nelle quali non si possa attendere e non vi è la possibilità che il paziente esprima la sua opinione. Oppure quando il paziente non sa scegliere e si affida, il dottore faccia quello che ritiene come se fosse lei il mio posto. Da parte di medici la proposta di varie, o almeno un'alternativa terapeutica, quale delle due scegliere, magari una delle due è consigliata per chi guida e l'altra invece no, ma si basa su un'esperienza, su una qualificazione particolare. Qui a Padova, con delle strutture così altamente qualificate, succede, sono più volte si è verificato, anche in questi giorni ci è stato richiesto l'autorizzazione, o perlomeno un parere favorevole, a scegliere un trattamento che non rientra nei trattamenti classici, ma che localmente, per l'esperienza che c'è, sembra poter dare, anche alla luce di bibliografia, delle indicazioni favorevoli. Altri esempi potrebbe essere il centro trapianti, che ha richiesto a suo tempo la possibilità di utilizzare un organo cosiddetto marginale in situazioni per le quali l'alternativa era certamente peggiore rispetto a questo trattamento un po' a rischio. Oppure ancora il principio di beneficità attraverso i colloqui con i genitori o con i familiari che restano turbati, che magari a volte hanno sempre un buon rapporto con i medici curanti, che però sono stati avvicinati con loro si è parlato, alla fine non solo hanno riconosciuto la correttezza del trattamento medico, ma hanno ringraziato il comitato etico per aver fatto questo tipo di approccio. E qui è il principio di giustizia. Accennavo prima che, a mio parere, accanto al principio di autonomia, è quello al quale oggi noi dobbiamo guardare. La relazione del direttore generale ci ha mostrato tutte queste impressionanti questioni di carattere economico. Il principio di giustizia non vuol dire certo risparmiare il danno del paziente, insomma, spesso che sia, che tutti lo comprendiamo, anche se a volte potrebbe esserci questo tipo di atteggiamento anche da parte degli operatori sanitari incapaci di una valutazione clinica critica, cioè subordinati o seguenti a delle linee che magari ritengono esistono, anche se forse non ci sono. E come lo rileggiamo oggi? E la relazione del dottor Scannantico si soffermerà su questi aspetti, cioè l'etica dell'allocazione delle risorse. Ci sono delle risorse che possono essere risparmiate, ma ci sono anche delle risorse che possono essere impiegate a favore di altre attività. Può esserci un conflitto con i principi dell'economia: il paziente vuole una certa cosa che però non può essere soddisfatta, e questi non hanno una risposta immediata, hanno una risposta che va calata nella concretezza. E anche con il principio di città, gli stessi medici dicono sarebbe da fare, i medici con una tradizione culturale che ignora i problemi economici possono essere indotti a pensare che ogni volta che c'è un'esigenza questa deve essere attuata. Occorre un confronto, mi pare che di questo si è già accennato, si parlerà anche del costante. Vi faccio due casi. Un caso riguarda la richiesta di un testimone di Geova di trapianto di cuore. C'è stato anche un caso simile di trapianto di fegato con l'impegno a non trasfondere. In questo caso i medici hanno detto: noi potremmo anche cercare di impegnarci, ma assolutamente non garantiamo questo, anzi quasi certamente sarà necessario trasfondere. Allora a questo punto il comitato etico ha detto: consentire un trapianto in queste condizioni significa, molto rispettando naturalmente la volontà del paziente, non facendo quei trucchetti per cui a un certo punto si fa la trasfusione, quindi rispettando integralmente la volontà del paziente, significa che questo trapianto non andrà a buon fine per il paziente e ci sarà la perdita di un organo che potrebbe essere dato ad altri. Questa è un'applicazione del principio di giustizia. Utilizziamo questo organo così raro, così poco a disposizione, per un successo che è sicuramente maggiore di quello di un altro. E un altro esempio di segno diverso è quello della di una prestazione di un trattamento del nostro gruppo di reumatologi che, seguendo le gravidanze di donne con malattie reumatiche, hanno identificato una serie di condizioni che comportano complicanze materno-fetali. La spiegazione dei vantaggi e risultati che si sono ottenuti in questo studio assolutamente unico ancora, è stata così convincente per il comitato etico che non solo ha ritenuto di dover approvare prima un parere favorevole eticamente a questo tipo di trattamento, ma di doverlo segnalare all'azienda come un tipo di prestazione che esige un investimento di carattere economico. Quindi non è solo la ricerca del risparmio, come accennavo prima, ma anche come una scelta di investimento, anche perché questo tipo di prestazione poteva poi essere insegnata, esportata ad altre strutture fuori dalla nostra azienda, che ne avrebbero un vantaggio. Mi sono soffermato sul problema dell'analisi dei casi, adesso accendo rapidamente alla terza finalità, anche perché di questo si parlerà poi oggi, perché prevalentemente la mattinata e il pomeriggio sono dedicati a quanto è emerso dall'analisi dei casi concreti, cioè spesso l'analisi di un caso ci ha indotto a dire: ma prendiamo spunto da questo caso per fare delle riflessioni più generali, da indirizzare ai responsabili dell'azienda, da indirizzare ai responsabili della struttura, fare delle indicazioni di carattere operativo e indirizzi operativi. Allora abbiamo fatto una serie di iniziative con su richiesta di strutture, che accenno semplicemente qui, e poi abbiamo maturato una serie di riflessioni. L'accompagnamento del morente è stato oggetto ancora nel precedente mandato di un'iniziativa del Comitato regionale molto interessante che è pubblicata, fatta con gran parte dei comitati etici per la pratica clinica della regione. L'etica dell'organizzazione, questa è nata proprio lavorando su alcune situazioni e ne parleremo poi nella successione. Sul consenso informato, l'iniziativa era nata dalla direzione sanitaria di allora che diceva dovete preparare un modulo di consenso informato perché ce lo chiede l'assicurazione, perché ce lo chiede la legge 22 della regione Veneto. Ecco, da lì si è partiti per dire non è un problema di modulo, non è un problema di firma, è un problema di sostanza. E allora ecco che si è trasformata la nostra attenzione sul tema comunicazione, informazione e consenso, consenso come atto conclusivo di un processo che richiede l'informazione, ma prima ancora deve essere veicolato attraverso una buona comunicazione. E sempre nel contesto di questo spunto iniziale sul consenso informato è nata quell'esperienza bellissima, vi prego veramente oggi pomeriggio di esserci, di sentire la relazione e del professor Lamendola, che ne è stato il protagonista come coordinatore, ma anche direi soprattutto degli operatori medici e infermieri che l'hanno vissuta nei tre reparti di cui si parlerà, l'esperienza, l'iniziativa che è stata chiamata come ricerca azione. Di questa esperienza io ricordo il pensiero del professor Lamendola che ho citato, che così dice: non si tratta di insegnare a comunicare, non possiamo noi facilmente insegnare a comunicare, ma di accompagnare ciascuno nel percorso dell'accorgersi del modo con cui comunica, per cui vivendo insieme ci si aiuta ad accorgersi di questo. E poi c'è una quarta prospettiva che è stata indicata già dal comitato regionale e con il contributo dei comitati etici per la pratica clinica, che è quella, una quarta prospettiva, contributo alla riflessione sul tema della rotazione delle risorse. E il nostro comitato ha iniziato una riflessione a più voci con alcuni clinici presenti nel comitato e abbiamo con piacere ritrovato nell'atto aziendale questa affermazione: garantire in base al bisogno pari e tempestive opportunità di accesso alle prestazioni, ai servizi, agli strumenti messi a disposizione dall'azienda al fine di assicurare interventi adeguatamente sostenibili e la comunità. Dell'atto aziendale, che penso sarà conosciuto un po' alla volta, mi auguro che sia letto con attenzione, e che ci è stato illustrato dal direttore sanitario nell'ultimo incontro, riporto questo punto intitolato eticità. È un programma dell'azienda ospedaliera di Padova, a lei affidiamo l'aiuto perché questo possa essere realizzato. Dice: riconoscere la rilevanza delle problematiche di natura etica relative alla pratica clinica, alla sperimentazione, alla comunità e all'organizzazione, anche all'organizzazione, impegnandosi a tutelare i principi, è un impegno solenne che prende la dirigenza della nostra azienda, nei rispettivi ambiti, anche attraverso la creazione di organismi dedicati, il comitato etico, i comitati etici hanno questa finalità. Di solito si finisce dicendo vi ringrazio per l'attenzione, l'ho fatta un po' più lunga e di partita. In primo luogo un ringraziamento ai colleghi del comitato per questi anni di lavoro collegiale volto a far crescere l'etica della clinica ospedaliera di Padova. Questo sinceramente lo devo dire, e anche questa relazione è frutto non di una mia isolata invenzione ma di una collaborazione. E poi a tutti voi un ringraziamento per aver ascoltato questa relazione, ma comincia adesso il convegno per l'attenzione che volete dedicare agli interventi delle due sessioni di questo convegno. Allora prego la professoressa Baggio a dire, modererà gli interventi, così come quello che il dottor Marco Longo non ci sarà, e quindi tocca a. Giovane la Baggio, una bravissima collega di internista, primario di medicina clinica. Non ho assolutamente nulla da aggiungere, non faccio nessuna premessa, perché è stato già tutto molto ben spiegato, il senso di questa mattinata e quella di questa di oggi pomeriggio. La mattinata parte con un intervento di un sociologo, del professor Rita Alessandre, che è docente di sociologia all'Università di Padova, che si è occupato molto della sociologia della salute e collabora da molti anni con la Fondazione Lanza e con la Fondazione Zancan. Rita Alessandre ci parlerà della pratica dell'etica, relazioni tra persone e problemi organizzativi. Prego, Italo. Il tempo è prezioso, per cui ho messo per iscritto alcuni appunti, perché quello che non dirò potrete leggerlo. Ci tengo a dire che io sono, come avete sentito, non sono un medico, sono un laico, anche se in famiglia mio papà, mio fratello e mia moglie sono medici, sono stati medici. Per cui per me è stata importantissima questa esperienza, molto diversa dal fatto di occuparsi come sociologi della salute e della medicina. Vengo subito però al merito della questione. Paolo Picciolini ha ricordato che l'evoluzione dell'attenzione dell'azienda all'etica inizialmente ha dato vita a un servizio di bioetica e poi al comitato, che però è questo doppio sentiero è continuato. Perché è stato importante questo? Mentre invece altri comitati locali di bioetica, è il comitato di bioetica che deve fare sia il servizio di urgenza, diciamo, sia il servizio di consulenza più dedicato. Perché al comitato etico sono arrivati dei casi particolarmente complessi in cui proprio la fragilità o il non funzionamento di rapporti organizzativi aveva fatto sorgere dei problemi etici. Cioè, scusate, sembra un bisticcio, proprio il modo con cui è stato organizzato il servizio di bioetica, tra consulenza quotidiana, diciamo, e comitato etico, ha favorito l'emergere della consapevolezza che l'organizzazione produce in termini di cooperazione o di non cooperazione dei problemi etici o delle acquisizioni etiche o dei problemi etici molto importanti. Per questo il problema dell'etica e dell'organizzazione è emerso immediatamente. Anche perché c'è un secondo elemento, che è chiarissimo che quando parliamo di etica dell'organizzazione non parliamo di etica di quella che risulta formalmente l'organizzazione dell'ospedale, dell'azienda ospedaliera. Perché l'organizzazione, e qui sarà forse l'unica volta che adopero l'aggettivo sociologico, per intanto è arrivato anche Salvatore Lamedola, perché l'organizzazione di fatto della cura sanitaria riguarda i dipendenti, ma è anche tutti gli altri, gli ammalati e i familiari, che nella misura in cui entrano in contatto con l'organizzazione formale devono rispettare delle regole, devono rispettare degli orari, devono rispettare dei tempi e degli spazi, però avendo quell'autonomia su cui si è fermato Paolo Picciolini. Quindi potevo, con un'autonomia regolata ma potenzialmente molto conflittuale per la diversità delle aspettative. Allora, quando parliamo di etica dell'organizzazione, quando parliamo di etica, non sono pensieri, ma è un'etica pratica che si confronta sempre. Ma non sono io che quando parlo di etica pratica, perché sono fiori di filosofi che lo fanno in questi ultimi anni, oltre che nella grande tradizione filosofica. Ma quando si parla di organizzazione non stiamo parlando dell'organizzazione dei dipendenti dell'azienda ospedaliera, ma stiamo parlando di tutti coloro che cooperano in qualche modo o che possono entrare in conflitto in queste situazioni. Quindi già immediatamente emerge che l'organizzazione di cui dobbiamo avere in testa è più ampia ha una parte formale, una parte non formale, una parte professionale, una parte laica, laica nel senso di non medica, non infermieristica. E quindi emerge immediatamente che quando parliamo di etica dell'organizzazione, noi dobbiamo avere un atteggiamento che non può permettersi di essere semplificatorio. Per cui dobbiamo parlare di complessità dell'organizzazione, ma complessità che non è una parola come un'altra per dire che le cose sono complicate, ma complessità per dire innanzitutto di nuovo fare una scelta etica. Quando dobbiamo analizzare l'organizzazione dobbiamo farlo senza scorciatoie, senza semplificazioni indebite, senza riduzionismo, e guardare l'ordine e il disordine che convivono, guardare l'insieme di un reparto e ogni singola persona di quel reparto, che ha qualcosa che resta fuori del reparto. Per cui complessità è un modo, secondo me è l'unico modo intelligente, cioè capace di andare dentro alle dinamiche di questa organizzazione assolutamente complessa. E guardate che il fatto di guardare le cose senza cercare scorciatoie, senza cercare semplicismi, è una cosa molto difficile, attraversata da continue tensioni, in cui ci deve essere una fortissima motivazione ad argomentare quello che si dice e nello stesso tempo a cercare intese con gli altri che hanno altri occhi e altre prospettive. Allora, con questa sensibilità, noi dobbiamo dire, oggi pomeriggio sentiremo la dottoressa Montanini che parlerà dell'esperienza di formazione, delle giornate, c'è il professor Alcuri che ha collaborato a impostare queste cose. Dentro questa organizzazione ci sono due livelli di velocità o due livelli di sensibilità per quanto riguarda questa etica dell'organizzazione. C'è una sensibilità molto forte del centro infermieristico che si è mostrato il più attivo nel cercare ponti tra reparti, tra situazioni, eccetera, eccetera. E c'è invece una lentezza in campo medico, che infatti sono state le persone che hanno frequentato di meno, per esempio, le giornate di formazione, perché evidentemente i medici sono molto occupati e preoccupati di ciò che accade dentro al reparto, non so se è chiaro, di ciò che bisogna fare. Però capite che già questa doppia velocità di medici molto più concentrati dentro i reparti e di infermieri concentrati nei reparti, ma anche nei rapporti tra reparti, nel accompagnamento anche delle persone ammalate, questo crea già un problema di tensione, di diversa sensibilità. Sarà perché proprio io non sono né medico né infermiere, lasciatemelo dire, che c'è questa doppia. D'altra parte, questa doppia sensibilità, lasciatelo dire a me, è anche il fatto che, guarda caso, oggi è stato organizzato un incontro della scuola di medicina, sapendo perfettamente che contemporaneamente c'era un incontro del comitato. È inutile che ci nascondiamo dietro il dito. Questa realtà di una doppia linea di sensibilità, che poi in un'azienda così complessa come quella di Padova è anche una doppia linea di comando, diciamo, quello ospedaliera e quello universitaria, un doppio criterio di reputazione di carriera, questo non è che lo inventi io, è un dato di realtà, ma è anche un dato di realtà che deve essere ricordato. Per affrontare più specificamente questo discorso di etica dell'organizzazione, abbiamo detto probabilmente la cosa più interessante è affrontare una grossa innovazione organizzativa che è stata realizzata dall'azienda ospedaliera. E c'erano tante altre tematiche che erano interessanti, ovviamente. L'innovazione della Week Surgery, un'innovazione estremamente importante, estremamente ben riuscita, assolutamente monitorata, che proprio nell'ascolto delle diverse persone, dei diversi professionisti coinvolti, ha fatto emergere una questione assolutamente interessante, che è proprio una delle espressioni di quella che ho chiamato complessità. Perché una delle espressioni della complessità è perché, per esempio, quando noi agiamo, gli effetti di quello che facciamo non li abbiamo soltanto alla fine dell'azione, ma li abbiamo esattamente mentre agiamo, perché quello che facciamo non aspetta che arriviamo alla fine, ma quello che facciamo interagisce immediatamente su come facciamo quello che stiamo facendo. Allora, in questa innovazione molto seria e molto importante, anche che è un fiore all'occhiello dell'azienda ospedaliera di Parma, nella trasformazione nell'individuazione dei casi che potevano avere appunto un trattamento chirurgico e anche alberghiero, diciamo, rapido, si è andato verificando che pressoché inevitabilmente nei reparti di matrice, nei reparti di partenza, sono rimasti i casi più gravi. E quindi, con un peso di lavoro e anche di tensione negli operatori, che è stato percepito come una specie di disuguaglianza di trattamento tra i favoriti che andavano a lavorare alla Wings-Surgery e gli altri che rimanevano a trattare i casi più gravi, con anche alcuni problemi etici. Ovviamente di questo ne abbiamo parlato con estrema serenità, con estrema franchezza. Riprenderà o il dottor Di Falco riprenderanno queste questioni. Quello che è stato interessante, appunto, è questo: capire che le innovazioni, e l'azienda ospedaliera è continuamente impegnata in innovazioni organizzative, anche solo per pensionamento di ordinari universitari o di primari e di riorganizzazione dei reparti. Qui mi sono accorto io da laico, appunto, che molte riorganizzazioni vengono fatte solo perché finalmente qualcuno è andato in pensione, con rispetto di pensionati presenti, ovviamente. Io sono un pensionato, per cui non mi preoccupate. Questa questione di un'innovazione non ha effetti solo per quanto programmato e progettato, non so se rendo l'idea, ma effetti immediati negli altri coinvolti, anche se coinvolti solo in seconda battuta, proprio per effetto dell'innovazione in corso. Quindi questa esperienza molto seria di studio, che poi in realtà della Wings-Surgery, si è proprio come insegnato che ogni volta che verrà progettata un'innovazione bisognerà essere estremamente attenti a quello che accade anche umanamente, alle persone che intanto, in qualche modo, non subiscono, ma sono coinvolte attivamente nella parte, come potrei dire, meno nuova e quindi anche meno motivante, diciamo, dell'innovazione. Per me questa è stata un'esperienza assolutamente interessante, e appunto che deve insegnare: le innovazioni non si guardano solo dopo che l'innovazione è finita, ma bisogna guardarla anche durante l'innovazione. Mi restano pochi minuti per dire ancora due cose, però questa seconda cosa mi pare assolutamente importante, perché mi ha fatto ricordare vecchissime reminiscenze sociologiche, che appunto ogni volta che si programmano con attenzione specialmente delle situazioni ad altissima tecnologia ed altissime conoscenze, bisogna avere una altissima sensibilità per le persone che sono coinvolte. Proprio perché, capite, proprio perché un'azienda ospedaliera, un'azienda sanitaria è ad altissima conoscenza, ad altissima tecnologia, conoscenze e tecnologie che sono ad altissima velocità di evoluzione, lo stress, non nel senso negativo, ma la tensione a cui sono sottoposte le persone, è fortissima. E per questo io sono stato assolutamente felice quando non solo abbiamo deciso di parlare di persone che curano persone, ma di aver visto addirittura che nell'atto aziendale si parla di persone che si prendono cura di persone. E cioè si fa un passo in avanti rispetto a quel discorso che si parlava, di cui si parlava, cioè manuali sull'umanizzazione dell'ospedale, il mito della centralità del paziente, quando a un certo momento è a tutti evidente che la cura è un'ellisse in cui ci sono due centri, due punti. Uno è la persona che si ammala e l'altro è la persona che cura. È inutile che ci nascondiamo dietro automartirologi, no, è solo il paziente al centro. Sono balle in termini empirici, oltre che in termini psicologici. Sono sempre due centri. E così possiamo dire degli educatori, possiamo dire degli assistenti sociali, eccetera. Inutile essere autoumili, bisogna riconoscere anche qui la complessità della realtà. Le persone al centro sono le persone che curano e le persone che sono curate. Un ultimo punto allora, perché questa sensibilità etica va fatta crescere. Proprio un grande sociologo francese negli anni 70 ci ha aperto gli occhi dicendo: guardate che i movimenti sociali più innovativi non nascono nelle situazioni più sfortunate del pianeta, nascono in situazioni intellettualmente fornite, organizzativamente fornite, con una relativa distribuzione del potere. Anche qui la sensibilità etica, i casi etici che ci sono stati portati non sono venuti dai reparti meno sensibili, non sono venuti dalle persone meno sensibili, sono venuti dalle persone più sensibili, dai reparti più sensibili. Allora, cosa vuol dire? Che c'è una stratificazione, ci sono i buoni e i cattivi? No, vuol dire semplicemente, primo, che già una sensibilità etica è molto forte, e già la tradizione pediatrica lo dice, e vi ricordo che l'Istituto per l'Etica in Sanità, ISPE Sanità, ha fatto il primo seminario nazionale a gennaio, parlando dell'etica in sanità, sul tema della corruzione. Corruzione, corruption, che vuol dire sia corruzione vera che dissipazione di risorse. A noi non sono con noi non sono emersi discorsi di corruzione, a noi sono emersi dei discorsi di grande sensibilità. Ma allora perché si diffonda questa sensibilità? Non bisogna tanto dire ma quello è più bravo o quello è meno bravo. Il problema è che tutti devono in qualche modo essere stimolati a migliorare l'attenzione, a migliorare la sensibilità. Così come si è sensibili per la tecnologia, per gli sviluppi farmacologici, per gli sviluppi diagnostico-terapeutici, bisogna essere sempre più sensibili alle relazioni. Anche il mio è finito. Perché, come diceva recentemente uno scrittore e professore universitario statunitense, accanto a queste cose bisogna mettere anche la gentilezza nelle relazioni, bisogna mettere anche la sensibilità. Ci sono sempre delle relazioni in ballo e questa non è un optional. Questo è anche economicamente conveniente, riduce le liti, riduce le delusioni. Per cui in questo senso il miglioramento della sensibilità etica va raggiunto se ci si mette in questo atteggiamento di miglioramento, in questo atteggiamento di apertura senza scorciatoie, che credo anche organizzativamente sia una cosa assolutamente salutare. Grazie. Grazie davvero, Piero De Sandre. Avremo modo alla fine di questa carrellata di relazioni, di avere una mezz'ora, spero, di discussione, quindi appuntatevi le domande o gli interventi. Passiamo adesso al dottor Achille Falco, che è direttore del servizio per le professioni della nostra azienda, per le professioni sanitarie della nostra azienda ospedaliera, e che entrerà nella tematica dell'etica, continuerà la tematica dell'etica dell'organizzazione col titolo L'etica dell'organizzazione è possibile? Esperienza dell'azienda ospedaliera di Padova dal punto di vista dell'organizzazione. Prego. Buongiorno a tutti. Io comincio con i ringraziamenti dell'inizio, non come professore alla fine, ma ho tre ringraziamenti fondamentali da fare. Una, la prima è l'opportunità di essere qui con voi a portare un pensiero che non sempre è in linea con la corrente, qualche volta insomma so di essere controcorrente, ma spero sia valutato come valore aggiunto. Un secondo ringraziamento è per il percorso all'interno del comitato etico. Solo il fatto di esserci è davvero un valore aggiunto. Il vero dispiacere è che questa opportunità che ho avuto da un po' di tempo da parte non possa essere diffusa, perché è un luogo in cui si può parlare apertamente dei propri pensieri, è un luogo molto professionale nel quale si assiste a persone che si svestono del loro ruolo e si mettono in un campo, in un tavolo unico nel quale potersi confrontare in maniera aperta, avvenendo, come ha già citato il professore, sempre ad una soluzione che probabilmente con il contributo di tutti è sicuramente migliorativa rispetto alla base di partenza. E un terzo ringraziamento al professor De Sandre, che ha chiamato, no, che ha ricordato la logica della complessità nella quale siamo inseriti, e la verità è, caro professore, che noi in azienda non stiamo fermi mai. Nel momento in cui cominciamo a mettere in moto un cambiamento, di fatto c'è già un altro progetto pronto ad essere messo in moto, quindi è un aspetto veramente complesso. Mi sono permesso anche di fare due variazioni sul titolo. Il primo è come far crescere l'organizzazione sanitaria nell'etica e non l'etica nell'organizzazione sanitaria, perché è una cosa in cui credo molto. L'altra sintassi che mi sono permesso di correggere è aggiungere un punto di domanda, anzi sostituire un punto con un punto di domanda, perché è una sfida che credo che ci dobbiamo porre. Quindi, l'etica nell'organizzazione è possibile? Beh, se stiamo a tutto ciò che troviamo in letteratura, evidentemente sì, ma siamo qui a discuterne oggi e siamo qui a dire che una serie di elementi progettuali, nonostante siano stati pensati con grande attenzione nei loro specifici aspetti, possono portare a dei risultati che possono portare tutti etici. Quindi evidentemente bisogna assolutamente parlarne. E allora, normalmente qual è la modalità con cui si è proceduto? Senza entrare nei dettagli, richiamo questo diagramma che molti di voi conosceranno, sicuramente una modalità di lettura sistemica, cercando di finalizzare i nostri due ragionamenti su due aspetti molto importanti, secondo me, i meccanismi operativi e i processi sociali all'interno di quell'area dei processi che servono a trasformare l'input del nostro sistema in output e meglio ancora poi in outcome per il servizio sanitario. Meccanismi operativi identificati come le regole ufficiali, personali ed interpersonali che gestiscono le nostre relazioni e quindi le logiche informative, i modelli dei processi decisionali, chiari e trasparenti, i sistemi di valutazione e controllo del risultato, come vedremo poi anche in una relazione che ci seguirà, le procedure, i protocolli di lavoro, la regola di gestione delle risorse, la selezione, le prevenzioni, tutti gli elementi che devono essere chiari e trasparenti all'interno del modello gestionale. Come peraltro i processi sociali, la trasparenza di questi elementi porta sicuramente a comportamenti, lo diceva il professor De Sandre un attimo fa, la gente e le relazioni non aspettano l'esito finale del nostro percorso, ma un mio sguardo, un mio tono di voce, una mia frase genera immediatamente relazioni, reazioni e controreazioni. Quindi evidentemente dai nostri comportamenti ci dobbiamo evidentemente aspettare anche comportamenti di accettazione, di rifiuto o, in quei casi in cui le regole non siano chiare, dei comportamenti di compensazione all'interno del sistema organizzativo. E poi da ricordare che l'organizzazione non cresce da sola, l'organizzazione si alimenta dei nostri frutti, si alimenta delle nostre azioni. E i frutti che ognuno di noi ottiene dipendono dalle azioni che ognuno di noi riesce a mettere in campo. Ma le azioni che mettiamo in campo dipendono dalle nostre idee. Ed è evidente che le nostre idee le realizziamo e le valorizziamo secondo i nostri valori. E i nostri valori alla fine sono e sostengono e danno la possibilità a noi e danno quindi a noi anche la capacità di innovare, competere, motivare, insomma di farcela. E quindi i valori sono strettamente collegati alla capacità nostra di dare frutto. E come pubblicamente si può ricordare, dobbiamo accettare di essere valutati per i frutti che diamo e non per l'albero che rappresentiamo. Quindi questi valori li ritroviamo ed è possibile ritrovarli in una logica di cultura organizzativa, intesa proprio come l'insieme di valori, delle opinioni, delle conoscenze condivise dai membri di un'organizzazione e insegnata ai nuovi membri come maniera corretta di vivere l'organizzazione. Ecco la forza della formazione citata dal professor Lucio. Non soltanto condividiamo tra di noi, ma facciamo in maniera che chiunque di nuovo arrivi nella nostra organizzazione abbia una sorta di imprinting etico, che, con il quale poi naturalmente può sicuramente discutere e contribuire a migliorare. E allora l'importanza dei valori. Lato aziendale è stato citato, io volevo ricordare che nella logica della trasparenza, della comunicazione, della condivisione dei valori, questi devono essere chiari, devono essere trasparenti, devono essere comunicati. E quindi niente di meglio che trovarli dichiarati all'interno anche del lato aziendale, come i principi che orientano gli scopi, le intenzioni e le azioni di tutti coloro che a vario titolo operano e contribuiscono al compimento della missione aziendale. Siamo veramente tutti nella stessa barca e in una barca a vela, molti tra il pubblico probabilmente saranno esperti, io no, a dire la verità, ma mi piace molto l'idea, è uno di quei luoghi in cui è fondamentale il contributo di tutti. Sicuramente del capitano, ma senza mozzo la barca a vela ha poca strada da fare, quindi è fondamentale il contributo di ciascuno. E quindi i valori fondanti citati, la centralità della persona, e quindi qualunque persona, non soltanto il paziente, ma qualunque persona appartenente all'organizzazione e anche esterna, l'equità, la qualità dell'attività assistenziale, amministrativa, che tante volte tanti pensieri ci dà, la didattica, la ricerca, innovazione, la trasparenza, l'eticità e la sostenibilità, con cui è necessario fare i conti ogni giorno. E credo che la relazione del direttore generale abbia dato degli spunti di riflessione in merito al concetto di sostenibilità. E allora i valori diventano i veri boss dell'organizzazione, sopra gli aspetti gerarchici, quindi sopra le gerarchie, sopra il potere di manager, e sono coloro che ci aiutano anche ad affrontare le temporanee difficoltà, in una logica che un'adesione a valori etici importanti sia di fatto il valore che dà l'impulso all'azienda, perché il motore è rappresentato da ognuno di noi. E allora da dove cominciamo? Beh, fare questa relazione in queste anche sere, così, no, mattina molto presto, è stata una sorta di guardarsi allo specchio, no? Nella logica anche dell'esempio, nella logica di a chi chiediamo per prima queste cose, certo a ciascuno, a ciascun componente dell'organizzazione, ma sicuramente a chi gestisce le relazioni, quindi non noi, ma a chi gestisce l'interci. E quindi, anche qua, un richiamo biblico, ma non è soltanto biblico, quindi sicuramente nella gestione della leadership non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Rispetta gli accordi che hai preso, siano essi espliciti o impliciti, Evidentemente all'interno di un'organizzazione così complessa ce ne sono i chiari, vi sono anche dei vincoli contrattuali ci sono anche dei vincoli come le parti sociali, e tutti questi di fatto sono dei accordi. Ricorda che la voglio quello che sei, quindi tratta che sta di fronte a te come la persona più importante sulla terra. Sii disponibile al concetto dell'aiuto quando questo ti viene chiesto, e anche proponiti di essere propositore di aiuto. E ognuno di noi nel profondo sa che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Nella logica che i valori fanno parte della nostra vita, in ogni momento. E se ci immaginiamo, io ho riportato quattro possibili elementi, se ci immaginiamo come dei contenitori, sicuramente non siamo dei contenitori stagni, ma viviamo della logica dei vasi comunitari. E quindi, immaginando che questa possa essere rappresentativa della persona, di sé, della propria famiglia, della propria azienda e del sociale, e all'interno abbiamo un'acqua chiara e trasparente, ma essendo i vasi comunicanti, ogni qualvolta si ponga il rischio che una goccia nera come azione non etica entri all'interno di ognuno di questi, oppure uno soltanto di questi contenitori, è evidente che l'acqua non sarà più trasparente in nessuno di questi. E le possibili gocce nere che si possono aggiungere ogni giorno sono tante: il non assumersi le proprie responsabilità quando queste sono chiare, il non avere mai tempo per gli altri, ma possono esserci altri esempi, il cedere a modi di risolvere i problemi in modo semplice, ma rinunciando ai propri valori, o della paura delle conseguenze per proteggere i propri valori, cioè può capitare che rispettare i propri valori, richiedere il rispetto anche da parte degli altri, poi se siamo evidentemente valori condivisi, possa porre situazioni in cui le normali relazioni di convivenza possano inclinarsi. Allora, pur di non farle inclinare, non potrebbe cedere al proprio valore. E invece è importante trovare la modalità di condividere questi valori. Evidentemente, più goccette nere entrano in questi sistemi, più l'acqua rischia addirittura di non essere neanche più riconosciuta come acqua. Quindi dovremmo trovare una giusta dimensione tra goccette bianche e goccette nere. Nella logica del dualismo tra la persona e l'organizzazione, di fatto, organizzazione composta da persona. E allora, in questa logica di dualismo tra persona e organizzazione, sono tanti i punti di domanda che possono essere individuati all'interno di una figura così complessa. Rispetto ai gruppi organizzativi, sono tanti gli elementi che possono essere portati, non ci darò ma sicuramente argomenti caldi, molto caldi nel versante etico in azienda possono essere la revisione del concetto di part-time, legato tra valore aggiunto per la singola persona, ma sostenibilità direttore e infermieri, la regolamentazione del lavoro a cui ognuno deve fare riferimento, la revisione dei criteri di assegnazione delle risorse umane anche all'interno delle unità operative che compongono l'azienda, perché se facessimo influenzare dalle relazioni del personale, è ovvio, potrebbe essere che qualcuno abbia qualcosa in più di altri soltanto per il tipo di relazione che una persona come me può ad esempio avere con qualche direttore o con qualche coordinatore. Questa sarebbe una cosa francamente inaccettabile, ma il rispetto, il chiedere il rispetto dei criteri di assegnazione che devono essere chiari e trasparenti può porre elementi di crisi, soprattutto se questo è un pensiero innovativo rispetto alle questioni magari che possono venire dal passato. E le organizzazioni logistiche e strutturali, di cui poi si affronterà con calma nella prossima lezione. Quindi questioni di punto di vista, ve ne cito uno soltanto, visto che si lega molto alla prossima relazione. Una recente riorganizzazione dell'attività sanitaria genera la necessità di alcune mobilità interne del personale per adeguare le risorse umane alla necessità assistenziale. Criteri condivisi, ma seguiamo che cosa? Applicazione dei regolamenti interni, condivisi anche con la componente sociale dell'azienda ospedaliera, per i quali hanno dei criteri e prevedono anche delle funzioni. Ad esempio, visto uno, si sposta la persona più giovane, la matricola più alta come numero si sposta con questa regione. Ma se avessimo seguito questo concetto all'interno di un percorso innovativo come della Wixers, forse non avremmo ottenuto i risultati voluti. Ma non rispettando questo criterio, questo regolamento, andiamo in qualche maniera contro qualcosa che è trasparente. Quindi una, anche su questo dei punti di domanda che dobbiamo farci per riflettere. Quindi, ritornando alla nostra domanda iniziale, l'etica dell'organizzazione è possibile? La risposta, la mia risposta, per la nostra risposta è certamente sì. A patto che siamo disposti a condividere tutte le risorse che abbiamo a disposizione, a renderle evidenti e a renderle trasparenti. A patto che siamo disposti a rendere trasparente e condividere i valori a cui facciamo riferimento, e in questo caso l'adesione a quanto riportato anche l'atto aziendale. È possibile a patto che siamo disposti a valutare e ad essere valutate per i frutti che diamo e non per l'albero che rappresentiamo. È possibile a patto che siamo disposti a fare il test del Wall Street Journal, che è semplicissimo. Sto per prendere una decisione, so quali sono i valori che sostengono questa decisione, so quali sono i criteri, e allora se domani mattina questa mia decisione e i suoi criteri fosse pubblicata in prima pagina del Wall Street Journal, questo non mi farebbe paura. Se supero questo test, vuol dire che questa decisione posso intraprenderla con grande tranquillità e sicurezza. Se invece ho dei timori, è meglio che ci dica nessuno. Per concludere, credo, condivido molto questa frase, che il problema nel lavoro non è capire quello che dovrei o che dovresti fare. Il vero problema è trovare la forza e il coraggio per fare quello che sappiamo essere giusto, condividendo queste nostre scelte anche con le persone che ci stanno attorno. Grazie molto. Grazie Achille. Allora adesso abbiamo una seconda e anche il moderatore è riuscito la tematica dell'etica dell'organizzazione su cui è scritto dal punto di vista dei pazienti. Credo che sia molto importante la dottoressa Emanuela Gobbini, che è coordinatrice del reparto della comunità operativa unite della clinica chirurgica seconda e terza, e lavora al sesto piano delle degenze del policlinico. Emanuela Gobbini questi mesi in comitato di bioetica ci ha portato alcune sofferenze che abbiamo discusso tutti insieme e abbiamo chiesto di raccontare anche le soluzioni di queste sofferenze. Sì, intanto buongiorno a tutti, non vi nascondo l'emozione, sono stati in tanti oggi, cercherò il più possibile di portarvi quelli che sono un po' gli elementi più principali che abbiamo in qualche maniera rivisto all'interno del comitato etico organizzativo. Allora, sarà una relazione con uso di termini molto semplici perché, a mio avviso, semplice e comprensibile è il messaggio etico, basato in particolar modo sulla coerenza dei comportamenti pratici rispetto ai principi e ai valori etici. L'altro aspetto che volevo soffermarmi con voi è rispetto alla centralità delle persone, che è proprio presente nel titolo di questo convegno. Delle persone tutte, finalmente no, cioè non c'è distinzione tra il paziente, cliente, utente, visto proprio come persona, e dal professionista, dall'operatore. Quindi in questo aspetto tutti hanno questa necessità, no, di essere visti nella loro interezza. Allora, all'interno del comitato etico organizzativo di cui ero membro, abbiamo deciso di occuparci della riorganizzazione dei reparti chirurgici del policlinico avvenuta appunto ottobre-novembre 2010. Allora, tutto nasce in particolar modo dalla necessità di dare risposte puntuali ai pazienti che necessitavano di interventi chirurgici maggiori. E questo è stato l'aspetto prioritario, ovviamente sempre legato a rispetto dei vincoli normativi, e c'era anche questa necessità di distinguere le unità operative, dove possibile, rispetto al peso assistenziale e attivando anche dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali. Tutto questo, ovviamente, il vincolo era nel rispetto della centralità della persona, sia utente sia professionista della sanità. Quindi la riorganizzazione delle unità operative chirurgiche del policlinico attraverso la ridistribuzione dei posti letto di tutti i letti chirurgici delle cliniche presenti all'interno del policlinico. Tutto questo ovviamente aveva la necessità di attivare dei tavoli di lavoro di professionisti proprio interessati da questo processo di riorganizzativo. Le unità operative investite, diciamo, da questa organizzazione erano le 6 cliniche presenti appunto al policlinico, e c'era questa esigenza, c'era questa da qua nasce la Wing Surgery, no? Quindi l'apertura di questa unità operativa dava la possibilità al paziente a bassa richiesta assistenziale di soggiornare da un giorno a 5 giorni. La Wing Surgery poi sospende l'attività nelle giornate di sabato e domenica. Tutto questo ovviamente ha portato a una revisione della dotazione del personale con una ridistribuzione e gli adeguamenti contrattuali. Ovviamente tutto questo ha portato anche alla nomina, conferma dei coordinatori. L'aspetto particolarmente importante a mio avviso, che sono qua proprio a rafforzare, è proprio i tavoli di lavoro che hanno preso piede, sono stati, diciamo, attivati grazie a questo momento riorganizzativo. Proprio per dare più possibili risposte puntuali a questo momento così di trasformazione. Sicuramente in alto c'è stato un tavolo di direzioni con competenze tecnico-giuridiche. Dal punto di vista del servizio delle professioni, sicuramente, e quindi più nello specifico, quelli che poi sarebbero stati gli attori direttamente con competenze, con esperienze diverse per pianificare, pronti al confronto, tutto per, secondo ovviamente rispetto del profilo professionale, del codice deontologico e della missione dell'azienda ospedaliera, tutto quello che voglio dire possa rafforzare il valore. E appunto i coordinatori si sono trovati già molto prima, insomma, dello scadere della riorganizzazione vera e propria, della data in cui la riorganizzazione fisicamente avveniva, quasi ogni settimana avevamo questo appuntamento in cui si faceva il punto della situazione. E poi un tavolo di lavoro di professionisti che si interrogano sull'etico dell'organizzazione, no? Questo contributo aggiuntivo. Allora, un tavolo di lavoro per la pianificazione degli interventi, utile a prendere tempo per decidere la soluzione migliore. Questo è un aspetto particolarmente importante, no? È stato sottolineato anche con gli interventi precedenti. Abituati, vorrei dire, no, a dover intervenire, organizzare all'ultimo momento per decisioni prese qualche ora prima, perché questo succedeva, no? E quindi invece qua abbiamo avuto il tempo di metterci a tavolino, no? La ricchezza poi di competenze, di esperienze, di ruoli, di conoscenze, cioè tutto questo proprio per rafforzare il valore di questo tavolo e dare quindi una risposta giusta all'utente e al professionista. L'attenzione poi riguardo anche il monitoraggio dei dati, cioè lo diceva anche prima il professor Bessandre, cioè quello che noi abbiamo deciso, abbiamo cercato di organizzare al meglio, no, noi inteso come azienda, ovviamente va monitorato. Come i dati, quali sono, come li possiamo acquisire? Li possiamo acquisire sicuramente attraverso nel versante del paziente, attraverso la qualità percepita dal paziente rispetto a quelle unità operative coinvolte dalla organizzazione. E dal versante personale, no? Il professionista come sta vivendo questo momento di transizione, di cambiamento, no? Attraverso le giornate di assenza per malattia, il numero delle richieste di trasferimento e di tutto appunto il personale coinvolto. Ecco che quindi adesso ancora più nel dettaglio andiamo a vedere poi con la nascita, lasciatemi passare questo termine, di questa nuova unità operativa, che appunto unità operativa Recovery Brevi Week Surgery. Allora, è stata definita l'attività da svolgere in questa precisa unità operativa, il numero e l'attivazione dei posti letto, quanti numeri e da quando. La nomina sicuramente del coordinatore medico e infermieristico, la definizione e la modalità del reclutamento dei pazienti che vanno a occupare quei letti. Quindi qua stiamo parlando solo di attività programmata, stiamo parlando di pazienti a bassa richiesta assistenziale. E questo è un parametro fondamentale, perché i pazienti devono essere dimissibili entro il venerdì. Quindi cioè, l'osservanza di questi parametri da parte del medico che richiede il ricovero del paziente in quell'unità operativa è fondamentale. La definizione poi della turnistica, perché ovviamente gli operatori lavorano su 5 giorni e quindi ovviamente c'è l'esigenza di creare una turnistica ad hoc per quell'unità operativa. E chi ci va all'interno di questa unità operativa? Anche qua è stato fatto tutto un percorso e una trattativa e sono state prese delle decisioni. Ma tutte le altre unità operative da cui poi è nata, no, dalla WIT-Surge, anche le altre unità operative che, ripeto, erano in quel periodo storico, cioè quindi stiamo parlando ottobre-novembre 2010, le altre unità operative erano 6. Anche là si è dovuto confermare il direttore, definire la sede, il numero di posti letto di ogni unità chirurgica, gli accoglimenti, perché tutte le altre unità operative ovviamente hanno anche questo impegno, no? Di un giorno, per esempio, per quanto riguarda le unità operative del sesto piano, una giornata di accoglimento ogni tre giorni. Nomina del coordinatore infermieristico che, oltre ad essere coordinatore del piano, diventa anche responsabile dell'assegnazione del posto letto. Anche questo è un passaggio fondamentale, nel senso che non c'è più la proprietà, tra virgolette, no, del posto letto a carico del direttore, c'è un'assegnazione di un numero di posti letto, ma che non è poi cioè che se ci fosse un'eccedenza da parte di un'altra unità operativa in quel momento specifico di più posti letto, ecco che il coordinatore si fa carico di occupare i letti al bisogno, non più in base al direttore. La revisione della dotazione del personale e attivazione del turno in quinta, anche qua. Grazie, diciamo, a questo momento di cambiamento è stato introdotto anche il turno in quinta con la notte staccata, quindi anche qua un adeguamento contrattuale. Le riflessioni, no, qua numerose sono le riflessioni che abbiamo fatto all'interno del comitato etico, riflessioni che voglio condividere anche qui con voi oggi. Allora, utile il monitoraggio del percorso assistenziale destinato al paziente a parità di patologia e intervento chirurgico. Cioè, questo è un aspetto fondamentale che abbiamo definito proprio grazie anche a questa riorganizzazione, che il paziente in qualsiasi unità si trovi deve trovare giusta e dignitosa collocazione. Per tutti gli interventi programmati deve fare sempre gli esami di previgenza, dove è possibile, ovviamente stiamo parlando di attività programmata, visita anestesiologica, acquisizione e consensi. Lo diceva prima il professor Benciolini, l'acquisizione e consenso non deve essere fatto su un tavolo all'ingresso, no, ancora con i vestiti con cui sono entrata alla casa. Cioè è la conclusione di un processo di informazione. Quindi devono essere date informazioni chiare proprio nella valorizzazione della persona. Quindi il paziente deve essere pronto per l'intervento, deve conoscere il suo percorso, deve conoscere ed essere conosciuto dall'unità operativa. Questi sono tutti aspetti che abbiamo ricavato proprio dall'esperienza della Week Surgery, che ancora, dico, e mi dispiace molto, non siamo riusciti a trasferire, proprio per la complessità di cui si diceva nelle varie occasioni, nelle altre unità operative, no, di cui per esempio una è quella dove lavoro io. Questi aspetti qua sono poco presenti, anzi proprio ci stiamo cercando, ci lavoriamo tutti i giorni, ma non sono così immediati. Il ricovero si conclude con la consegna della lettera di dimissione, compresa di prescrizioni, appuntamenti, comportamenti, convalescenza, riferimenti telefonici per necessità. Solo a questo punto il paziente lascia il posto letto. Ecco, questo è un aspetto particolarmente importante, no? Se vogliamo metterlo al centro, no, dei nostri interessi, dei nostri processi, no? Allora, altre riflessioni che sempre abbiamo fatto. Dal 2010, con la creazione dell'unità operativa di Comune Bevi, solo un numero ristretto di infermieri tecnici in ambito chirurgico ha la possibilità di lavorare in turno, in 5 giorni con riposo sabato e domenica, settimana di Ferragosto di Natale a casa per chiusura dell'unità operativa. No ricoveri urgenti, no accoglimenti, solo ricoveri programmati con livello ASA 1-2, solo pazienti autosufficienti, per ogni paziente un percorso assistenziale definito. Questa è un po' la realtà che, insomma, non diciamo niente di particolare, diciamo quella che in realtà è la realtà di un'unità operativa all'interno di questa azienda. Quali riflessioni vengono, no? Conoscendo anche le altre realtà di questa azienda, che sicuramente l'aspetto più importante è quello di poter scegliere. Tutto il personale quindi dovrebbe avere la possibilità di poter scegliere o di lavorare in un ambiente organizzato su 5 giorni, ma che dà risposte a basso peso assistenziale. Cioè, questa è la particolarità, no? O in unità operative organizzate su 7 giorni, come la maggioranza di tutte le unità operative all'interno dell'azienda, dove il personale ha competenze tali da rispondere a qualsiasi richiesta ad alta intensità di cura, urgenze e accoglimenti. La scelta fortifica la motivazione, il senso di appartenenza e la responsabilità. E chi sta meglio con se stessi, no, sta meglio anche con gli altri. Quindi la proposta, rispetto a tutte queste riflessioni che abbiamo fatto, rispetto a questa importanza che diamo alla scelta, mi sento di dire che dovremmo trovare l'opportunità e dovremmo così chiedere, no, l'opportunità a tutto il personale infermieristico tecnico di scegliere, proprio per queste cose che ho appena detto, no? nella scelta, per esempio, può essere inserito anche questa unità, che è l'unità di ricoveri brevi. Soprattutto, siccome ci a parità di competenze rispetto all'ambito che è l'ambito chirurgico, se lo allarghiamo al dipartimento chirurgico, potrebbe entrare appunto come possibilità, no, di turnover con le altre unità operative. Ovviamente i tempi, la durata dell'inserimento, chi ci andrà, chi non ci andrà, come, quando e perché, qua va definito attraverso un tavolo di lavoro che sicuramente arriverà a delle conclusioni. Allora, per finire, il paziente che ha trovato risposte concrete, pertinenti, risolutive, umane, di qualità, che si è sentito considerato persona all'interno dell'unità operativa o all'interno del contesto ospedaliero dove ha avuto occasione di trovarsi, testimonia la sua esperienza, la comunità in cui vive, diventa il miglior pubblicitario. No, ogni tanto così ne parliamo, di fare in modo che l'utenza ci riconosca, no? Proprio come valore aggiunto. E qua in base anche a quello che diamo a quelli che ci sono già e come lo diamo, no? Come diamo la nostra assistenza. E questo dal punto di vista dell'utente, paziente, cliente, chiamatelo come desiderate, ma anche un clima sereno ed equilibrato in un'organizzazione facilita il pieno sviluppo delle capacità impiegate dal professionista, una maggiore efficacia e efficienza e quindi una rinnovata assistenza di qualità, attenzione e considerazione per l'utente. Anch'io sono arrivata alla conclusione appunto del mio intervento e volevo ringraziare sicuramente il servizio delle professioni che mi ha dato l'opportunità di essere, di far parte del comitato etico e organizzativo e di tutti i membri con cui ho avuto occasione di condividere questa esperienza. Hanno fatto una elezione a me. A tutti voi che mi avete ascoltato pazientemente qui stamattina, a Cristina è un'infermiera che faceva parte della nostra unità operativa che non c'è più, e i miei collaboratori che malgrado le difficoltà ci fanno sempre stupire, e quindi io volevo farvi vedere queste foto proprio visto che tra una settimana sarà Natale. Ecco, l'altro giorno con il dottor Dario si diceva prendevo un esempio di una dottoressa che ritiene essere innamorata della propria professione. Io penso che in azienda ce ne siano tanti operatori che siano innamorati della propria professione, e questo è un esempio. Ecco, un momento di sorriso regalato al paziente, e questo, insomma, vi volevo salutare e augurare un sereno Natale con questa foto di qualche tempo fa dove c'è anche Cristina. Grazie, grazie davvero Emanuele Gobbi per queste così gocce di vita tutti i giorni che rendono veramente la dimensione etica. Ma l'organizzazione, l'etica dell'organizzazione passa attraverso analisi e valutazione di processi. Questo è quanto la nostra super esperta, la dottoressa Laura Chioccia, ci dirà riguardo proprio ai sistemi di analisi e valutazione dei processi del lavoro prerequisiti per un'etica dell'organizzazione. Prego Laura. Grazie a tutti, grazie per l'invito e grazie anche per la relazione, perché ha costretto a un momento di ripensamento che è sempre molto utile, a una rilettura della letteratura che è sempre molto utile, e a cercare di argomentare perché i sistemi di analisi e valutazione dei processi di lavoro siano dei prerequisiti, siano un elemento preparatorio alla possibilità che un'etica dell'organizzazione si sviluppi. E allora una brevissima epicrisi, perché la contestualizzazione storica delle osmosi culturali che al mondo della medicina e della sanità derivano da altre culture, da altri territori, è molto importante. Anche perché i modelli organizzativi che noi acquisiamo sono a volte acriticamente acquisiti ed incorporati in stati nelle nostre realtà e possono talvolta generare effetti innovativi, creare ibridi oppure creare anche fenomeni di rigetto. Allora è interessante ricordare come questi modelli sono già presenti, ad esempio, in realtà come il sistema sanitario inglese, da cui abbiamo copiato con 30 anni di ritardo il modello. Quindi a volte guardare al laboratorio che sta un po' più a nord di noi e agli elementi positivi che le innovazioni organizzative hanno portato o agli elementi di attrito, di contrasto che hanno generato, ci può far bene, anche perché quella che viene definita in molta terminologia, molta semantica organizzativa che noi ormai abbiamo incorporato nel nostro lessico, deriva dalla famosa rivoluzione manageriale avvenuta negli anni, alla fine degli anni 70, che ha introdotto il concetto di aziendalizzazione nell'ambito della sanità ed è stata portata avanti da Margaret Thatcher, affidandosi nella riforma Griffith a un grande manager della PAM inglese, il quale ha affrontato manageriamente l'approccio ai processi sanitari secondo metodologie logiche aziendalistiche di cui noi trasciniamo reminiscenze vagamente proustiane anche oggi nella nostra analisi, nel nostro comportamento. Perché dico questo? Perché non possiamo, e ho apprezzato la sincerità dell'intervento del professor De Sangre, dimenticarci che ci occupiamo di questi argomenti, anche di etica, perché la sanità è uno degli argomenti, come ricordato dal nostro direttore generale, che rappresenta una delle basi della famosa piramide di Maslow, per cui è uno dei bisogni primari politicamente molto forte. Infatti lo Stato deriva la sua legittimità dal bisogno di sicurezza. Quindi salute sicura è un bisogno forte su cui tutti i sistemi sanitari, tutti i sistemi politici del questo mondo sarebbe... si confrontano, perché la sicurezza del paziente è un problema pubblico di fortissima valenza politica. Le elezioni si vincono sui programmi sanitari. E allora dobbiamo orientarci e posizionarci nei discorsi che oggi portiamo in un contesto globale e di tendenza. Voglio sottolineare che saranno le tecnologie che sono tecnologie del lessico post-moderno. Siamo oltre la modernità. Quindi il problema dell'invecchiamento lo affronteremo anche con un certo cinismo e sono un po' preoccupata per le diapositive che verranno seguite. Okay. Perché a volte nascondiamo la verità per paura dei problemi che questa verità ci pone ad affrontare. Ci sono degli avanzamenti tecnologici che impongono sicuramente anche una nuova alfabetizzazione dei professionisti. Ancora abbiamo problemi che riguardano pandemie globali, cambiamenti ambientali, tutto il problema della prevenzione, tutto il problema di quelli che vedete scritti nella diapositiva, non perdiamo tempo ad analizzarli. Di sicuro però l'orologio gira molto veloce e allora tutti sappiamo che questo peso dell'allungamento della vita e dell'invecchiamento della popolazione è diventato un mantra, ma è un mantra abbastanza angoscioso perché di fatto questi vecchi non sapranno da chi essere curati. Se guardate la caregiver ratio come sta proiettivamente cambiando e praticamente passando dall'1,5 all'0,7, significa che questi anziani da qualche parte dovranno essere più rassicurante il via di Z. E questo è il vero problema che mi ha fatto molto pensare la lettura, e su questo dovremmo interrogarci, su questo mito del territorio, sulla deospedalizzazione, e fare molta attenzione se non ci nascondiamo dietro a falsi miti e non stiamo invece facendo quello che Federico Caffè ricordava essere un comportamento di una tribù africana che aveva il costume di accompagnare i figli dei vecchi quando i vecchi non erano più sostenibili dalla comunità, e con l'aiuto di lunghe pertiche li portava verso il centro del fiume. Talvolta vi dirò che quando penso all'assistenza territoriale non correttamente gestita, ai discorsi che a volte facciamo di odio quasi verso gli anziani che arrivano in pronto soccorso e che noi dobbiamo cercare di parcheggiare o quant'altro, questo passaggio mi ritorna in mente, e allora ripenso ai modelli che a volte proponiamo e che sposiamo, da cui ci abbracciamo in maniera acritica, talvolta qualche riflessione andrebbe fatta. Così come dirompente è il cambiamento di paradigma che anche nell'analisi dei processi si imporrà, di una medicina che sta passando da una medicina cosiddetta reattiva, quindi basata sulla popolazione, grandi, medie e mediane, basata sui sintomi, sui problemi della terapia, su un paziente passivo, verso quella che viene definita la nuova medicina dalle 4P. Una medicina personalizzata, una medicina predittiva. Sapremo geneticamente i nostri destini prima ancora che questi destini si avverino. Una medicina preventiva e soprattutto una medicina partecipativa. Questi cambiamenti sono importanti, e sono importanti anche da un punto di vista scientifico, perché l'avvento di tutte le conoscenze genetiche, e la professoressa è una personificazione dell'importanza della lettura della medicina di genere, portano a uno scompaginamento anche dei nostri modelli scientifici. Eravamo abituati a leggere in maniera frequentista i dati scientifici, paziente medio, l'evidence based. Bene, questa entrata a gamba tesa della medicina personalizzata, della cosiddetta epidemiologia nominale, ci costringerà a una rilettura critica sia dei processi che eroghiamo, sia dei principi su cui li basiamo. E allora questo è un termine che piace tanto al nostro direttore generale. Perché dobbiamo abituarci a ragionare in termini postmoderni, cioè utilizzando una lettura di Bauman di società liquida, anche di ospedale liquido? Perché sicuramente, e trovo geniale il collega di questo ospedale pediatrico di Barcellona, che ho il piacere di conoscere, perché da una medicina del singolo stiamo arrivando a una medicina partecipata e a una medicina collaborativa, che è la medicina del futuro. Ed è interessante anche che cosa ci dice la letteratura. Mi è piaciuta questa comunanza di citazione con Achille, che le organizzazioni sono realtà socialmente costruite. Abbiamo un sociologo in aula di chiara fama, che si trovano però più nelle menti dei loro membri che nelle strutture. E allora è interessante vedere come la letteratura, che negli anni 70 e negli anni 90 è stata molto attenta a misurare la temperatura organizzativa dei sistemi, e con Reason e con tutto il suo contributo scientifico ci ha insegnato ad analizzare l'organizzazione come fonte di errore sul paziente, ci ha portato alla cultura della dispersione termica organizzativa, e qui lo recupereremo poi nel perché è etico analizzare i processi, perché è vero che abbiamo bisogno di risorse, ma la prima enorme, importantissima risorsa che in una mancata pianificazione ed analisi dei processi dilapidiamo è il tempo. Noi abbiamo tempi spazzatura, buttiamo via tanto tempo proprio perché non analizziamo i processi. E questa letteratura, questa cultura scientifica è stata fondamentale per valorizzare l'importanza dell'analisi dei processi organizzativi. Ha contribuito a livello scientifico con dati dirompenti che hanno portato poi alla pubblicazione di Two Areas Human e The Quality Chasm, che sono due, diciamo, bibbie per chi si occupa degli argomenti che trattiamo oggi in aula. Ma la letteratura è andata avanti ed è interessante, si sta spostando nel cervello e nelle menti degli operatori, perché se questo problema incide, se questo aspetto incide nel 17% degli errori con conseguenze gravi che noi generiamo nel tentativo di curare i nostri pazienti, gli errori diagnostici incidono per il 39%. Ed è interessante ricordare che la diagnosi è un lavoro solitario. È un lavoro solitario, è un lavoro che va accuratamente studiato, perché ci siamo accorti che gli studiosi delle mappe mentali con cui noi percorriamo le nostre, su cui noi appoggiamo le nostre decisioni, sono mappe interessantemente pericolose, perché sono mappe che noi pensiamo affondino nella razionalità e invece affondano nell'inconscio. E la pressione nella relazione di aiuto che noi abbiamo quando abbiamo un problema clinico di fronte ci porta spesso ad utilizzare scorciatoie, e più siamo pressati dal tempo, più abbiamo un mal concetto, un cattivo concetto di efficienza, più commettiamo errori, più utilizziamo ragionamenti euristici, l'intuizione, non il ragionamento svolto nella complessità. Altro elemento importante e non, come posso dire, da nascondere nelle attività che facciamo. E allora ecco perché è importante analizzare i processi e ragionare sulle cose che facciamo. Perché porsi il problema di come i dottori fanno le diagnosi non è banale, perché le componenti, il puzzle decisionale consta di elementi molto interrelati e molto complessi. Prima di tutto bisogna sapere. Il secondo punto, bisogna saper visitare, bisogna saper ragionare, bisogna saper organizzare, bisogna sapere comunicare. Giustamente viene rilevato che queste competenze attualmente non sono tutte strutturate nei percorsi formativi dei clinici, e su questo dovremmo ragionare. Così come dovremmo ragionare su una nuova semantica a cui siamo stati abituati. Tante nuove parole, molto importanti, molto interessanti, molto etiche. Guardate la parola responsabilità, guardate la parola appropriatezza, guardate la parola accountability, trasferimento di identità. Ma base di tutte queste parole sta come elemento portante la parola processo. Se noi non ereditiamo, e qui è veramente un debito culturale che abbiamo, dagli altri mondi che si occupano degli analisi dei processi, noi non potremo affrontare la complessità dei nuovi ruoli che una medicina postmoderna, una medicina liquida ci richiede. Perché solo con l'umiltà di scandagliare nella profondità la complessità riusciremo a trovare gli snodi portanti, gli elementi che dovremo tutelare perché pericolosi, e ancora le competenze che dovremo sviluppare, perché se in maniera assolutamente riduttiva noi stiamo dentro in questa complessità, voi capite che non possiamo non avere gli strumenti culturali e tecnici per analizzarle, perché ad esempio un dato importantissimo, i nuovi modelli organizzativi presuppongono molte interfacce e le analisi dei processi dicono che le interfacce sono i passaggi cruciali, sono gli elementi di clivaggio dove si annida l'errore. Ecco che allora analizzare bene i processi per adattarli ai nuovi modelli organizzativi è condizione fondamentale, perché il processo dominante a cui siamo chiamati a dare una risposta è proprio il percorso di ogni paziente all'interno di questo variegato mondo che è l'ospedale. E c'è un problema di sostenibilità. C'è un problema di sostenibilità perché la letteratura dice che stranamente siamo obesi di linee guida, ma siamo anoressici di percorsi assistenziali. E allora ce lo dobbiamo chiedere come mai. Basta parlare di scrivere linee guida, ne abbiamo anche troppe. L'importante è personalizzarle nella propria realtà, contestualizzarle, perché l'altra verità che non si può più nascondere e che la medicina è fatta di attenzione ai singoli pazienti e quindi tutto il nostro sapere è costruito, torno a dire, su un paziente medio, un paziente ideale che non è il paziente che noi poi fronteggiamo nella realtà, e quindi bisogna anche che la nostra formazione sia tale da costruire questa sensibilità operativa nel traslare la competenza teoretica nella competenza relazionale. Ho letto un passaggio bellissimo recentemente che dice: siamo misurati a prestazioni, i nostri budget misurano prestazioni, sarebbe bene che incominciassimo a essere misurati a relazioni. È un sottile cambiamento, ma penso che su questo dovremmo riflettere. Ancora, parlare di percorso assistenziale significa parlare di competenze. Ecco perché i prerequisiti di un'etica organizzativa sono declinare in maniera rappresentata, in maniera tracciabile come mappa mentale condivisibile da tutti gli operatori, che cosa fare ad un paziente, dove farlo, chi farlo e con che competenze farlo. E allora fare questo non è banale, credetemi. Noi abbiamo tentato e siamo stati sostenuti in questo percorso, l'abbiamo fatto con due gruppi di lavoro, vi porto i risultati. Richiede serietà nella valutazione della letteratura, ancora capacità di integrare le conoscenze, capacità di adattare, capacità poi di avere proprio una mappa geografica mentale nei confronti di un problema clinico da condividere con tutti gli operatori coinvolti, perché non può esistere un case manager se non esiste un percorso assistenziale, non può esistere un paziente cosciente, un paziente maturo, un paziente libero di decidere quale strada intraprendere se le strade non sono tracciate, non sono individuate e non sono confrontabili. Ecco perché anche in questo la valorizzazione del personale è fondamentale, la valorizzazione delle persone che sono chiamate a contribuire su questo percorso è altrettanto importante, come è importante la misurazione. Ma la presenza di l'analisi dei processi permette anche di implementare sistemi organizzativi anche immateriali. Da questo percorso, ad esempio, è nata una chest peduni funzionale, non ha muri, molto liquida, non ha muri, non ha strutture, non ha un ufficio, ma funziona molto bene, ve lo posso garantire. E anche qui cerchiamo adesso di fare un po' di autocoscienza. Si dice che team significa together, everybody achieves more, bene, ma è proprio vero? È proprio vero che lavorare assieme di principio è corretto? Beh, la letteratura più recente si pone dei problemi. Sicuramente il lavoro di un team permette un'eguaglianza di accesso, quindi un'equità e un'alta qualità delle cure. Ma, e ritorna il concetto della progettazione, costa molto. Sarà tutto da dimostrare che è un investimento. e questo soprattutto perché si è partiti con un modello senza prima pianificarlo, analizzarlo, strutturarlo, ragion per cui ad esempio in Inghilterra adesso si stanno chiedendo se l'organizzazione del team non debba avere appunto una pianificazione anche di tipo budgetario. Ancora, sicuramente per poter lavorare in team si è, i risultati sono sicuramente buoni per quelli che sono i dati pubblicati in letteratura, ma la ricerca è molto scarsa. Ciò che è detto da tutti gli autori è che per poter lavorare in team bisogna essere preparati. Non è mettere persone assieme che garantisce il buon risultato. Ad esempio, nelle discussioni bisogna imparare a trovare, lo dicevano anche i relatori, un punto di equilibrio. Non tutti hanno gli stessi pareri, non sempre le decisioni prese dal team portano ad operatività e soprattutto la pressione del tempo, lo dicevamo prima, il numero eccessivo di casi, a volte una comunicazione non efficace può portare anche a un risultato non sempre efficiente, mentre ci sono risultati validi in letteratura sul fatto che riorganizzazioni ben pianificate portano a risultati assolutamente impattanti. Perché questo? Dico questo perché un'analisi, una preanalisi dei sistemi complessi è necessaria. Ad esempio, abbiamo anche simpatici interventi sul coordinamento studiato con molta attenzione a tavolino, ad esempio nei campi i risultati sono impattanti, nei campi operatori utilizzando i modelli che vengono utilizzati dalla Ferrari al pit stop, con un impatto sicuramente importante sui risultati e sulla qualità. E allora ci sono delle simmetrie interessanti fra quello che la letteratura sul ragionamento clinico ci sta insegnando, e cioè che noi lavoriamo per definizione in un ambiente incerto e che le nostre decisioni cliniche, la cura del paziente, non passa sempre attraverso processi decisionali razionali, ma utilizza invece processi mentali che sono più su basi emotive. È interessante vedere come la comprensione, una parte di letteratura citi la comprensione della vita organizzativa con simili analogie. Non solo va approcciata scientificamente, ma potrà sembrare un attimo irrilevante anche esteticamente, perché le dimensioni percettive, sensoriali ed emotive di quanto avviene nelle organizzazioni permette un'analisi in profondità della vita organizzativa. La letteratura ci ha insegnato pertanto che non esiste solo razionalità, necessita un'analisi razionale dei processi fondamentali, ma anche, e lo sentiremo nel pomeriggio, sarà molto bello, tutta la parte emotiva porta con irruenza il proprio contributo. Una visione di sistema pertanto richiede fondamentale l'analisi dei processi a cui per missione, per esplicito consegna da parte del sistema sanitario regionale siamo stati chiamati a rispondere, è prerequisito fondamentale perché i valori altrettanto dichiarati della centralità della persona, dell'equità, della qualità, della funzione didattica, della ricerca, dell'innovazione, della trasparenza, dell'efficacia, della sostenibilità permettano di permeare i processi che noi eroghiamo, permettano a questi processi di essere misurati. Oggi siamo misurati a livello nazionale in maniera direi molto strutturata, ma permettano soprattutto alla visione della nostra azienda, in questo caso, di fare il suo escurso sul territorio, perché questi valori non si riesce a capire devono essere cosa chi si occupa di l'aria che tutti noi quotidianamente respiriamo. grazie dottoressa Chiazza. Do la parola al dottor Camillo Barisa, che è il presidente del comitato etico, del comitato regionale di bioetica, e che ci dirà qualcosa sulle prospettive di lavoro proprio del comitato regionale di bioetica in termini di etica dell'organizzazione. Considerate il mio intervento una sorta di spot di pubblicità in progresso durante una trasmissione, quindi i tempi saranno poco più di uno spot, così recuperiamo un po'. Allora, anzitutto il saluto del comitato regionale, che è qui rappresentato non solo da me ma anche dal vicepresidente, dal segretario scientifico e da altri componenti. Ahimè, noi non potremmo rimanere per tutta la giornata perché alle 2 c'è la convocazione del comitato regionale, non è stato possibile spostarla. Io direi pochissime cose che fanno riferimento rispetto al tema oggetto di riflessione in questa giornata, una visione retrospettiva e prospettica di quello che è l'impegno del comitato regionale intorno a queste vicende, intorno a queste questioni. Anzitutto io ritengo che la prima attività che abbiamo fatto va in questa linea, cioè ci è stata chiesta una valutazione della bozza, quella che era una bozza del piano sociosanitario per il 2014-2016 della Regione Veneto, e abbiamo molto concentrato la nostra attenzione sui temi delle reti, dell'organizzazione dell'attività in particolare nell'ambito sociale del territorio, l'integrazione fra l'ospedale e il territorio. Ma soprattutto abbiamo messo in evidenza come le espressioni più significative intorno a questi punti strategici, volevamo vedere poi che ne sarebbe risultato dal punto di vista della realizzazione attraverso lo strumento delle schede. Soprattutto ci interessava e ci interessa molto tutto il tema della riorganizzazione del territorio. Va in questa linea, direi, la recente delibera regionale che riorganizza e rivede il tema della rete delle cure palliative. Quindi su questo ci siamo misurati il giorno stesso in cui siamo stati insediati. Direi che siamo stati insediati e siamo stati insidiati con questo tema così rilevante che ci è stato proprio tirato letteralmente addosso alla prima riunione. La seconda questione che si è misurata con il tema dell'organizzazione è la questione relativa, così come ci era stata proposta, a una valutazione etica nell'uso dei farmaci a costo elevato nel fine vita dei pazienti oncologici. Noi abbiamo rivoltato la frittata, e cioè il problema non è gestire i farmaci oncologici, se prima non abbiamo affrontato la questione dei percorsi assistenziali di questi pazienti fin dall'inizio. E cioè, che cosa significa il tema delle cure simultanee, dove cioè non compare alla fine, quando la morte è oramai imminente, il palliativista che mai il paziente e i familiari hanno visto precedentemente? E allora il tema l'abbiamo rivoltato e abbiamo fatto una riflessione su quelli che riteniamo i punti strategici nel percorso assistenziale di un paziente di questo tipo. Arrivo all'ultima questione, quella che abbiamo appena iniziato e che è molto in sintonia con il lavoro che in maniera egregia il comitato, non spetta a me dare i voti, per carità del cielo non sono nulla da questo punto di vista, noi come comitato regionale, io personalmente, abbiamo molto apprezzato l'attività e il lavoro su questo tema che è stato svolto dal comitato dell'azienda ospedaliera. Abbiamo messo a tema questo titolo, etica dell'organizzazione, e lo vogliamo svolgere in questa prospettiva, affrontando la questione della sostenibilità finanziaria all'interno di una medicina sostenibile. Questo doppio tema della sostenibilità applicato alle risorse da una parte e all'intero assetto della biomedicina dall'altra. Qui tralascio tutta una serie di questioni che immagino voi avete già affrontato, e poi capirete il motivo per il quale mi sento tranquillo nel tralasciare queste cose. Abbiamo creato un gruppo di lavoro, i componenti del comitato, che rifletteranno a partire da oggi pomeriggio sul tema del governo della domanda e del governo dell'offerta. Non si va a parlare e a toccare solo i temi economico-finanziari, ma voi potete comprendere in maniera chiarissima come questo va poi a toccare tutta la dimensione dell'organizzazione, tutta quella dimensione delle relazioni che poi sono le cose che l'utente, il cittadino, il paziente, il familiare percepisce, perché a loro di tutte queste cose che stiamo dicendo noi frega molto poco, immagino. Cioè, questo è l'invisibile per loro, perché per loro c'è un visibile, ci ha inchiodato su questo la prospettiva, la lettura che ci ha offerto il professor Bessanti. Come affronteremo tutto questo? Attraverso il gruppo di lavoro sicuramente, ma come è stato deciso nel corso dell'ultima seduta del comitato nel mese di novembre, noi vi chiediamo aiuto. E quindi, ne ho già parlato al professor Benciolini, presidente del comitato, chiediamo che il gruppo del comitato regionale di bioetica che rifletta su questo tema sia integrato con la presenza del professor Benciolini e un'altra o una o due persone del vostro comitato di bioetica, perché visto che voi avete già messo mano a queste cose, niente di meglio che creare valore aggiunto all'interno dell'attività del comitato regionale, in modo tale che la dimensione di rete, di collegamento e di connessione tra i comitati appaia in maniera visibile e che non si ipotizzi una sorta di gerarchia nel ruolo dei comitati, ma è una rete orizzontale, quindi tutto quello che può rappresentare aiuto gli uni per gli altri sia il benvenuto. L'ultima considerazione che faccio, per restare nei tempi dello spot pubblicità progresso, è il fatto che nella costruzione della nuova delibera quadro che andrà a sostituire quella del 2004 che è stata citata nella relazione introduttiva da parte di Paolo, dopo 10 anni si sente il bisogno di assumere le migliori pratiche e di togliere i difetti che si possono essere evidenziati nel corso di questo decennio. Questa delibera è stata costruita con una modalità organizzativa, a mio avviso, molto, molto efficace, molto etica, e cioè non una delibera che cala dall'alto, da un gruppo di illuminati o di sapienti che non si sa bene magari dove possano essere collocati, sempre tenibili, ma attraverso una costruzione alla base, dalla base, cioè i singoli comitati e i presidenti che insieme hanno raccolto le migliori esperienze e hanno costruito una bozza. A che punto siamo arrivati? La bozza è arrivata agli uffici della regione che ha sostanzialmente approvato il testo elaborato dalla rete di tutti i comitati e ci aspettiamo, come promesso, che possa essere approvata, adottata dalla giunta regionale entro il 31/12 di questo anno, quindi tra pochi giorni. L'ultimo pensiero è questo, che nella bozza di delibera, sia per quanto riguarda l'attività del comitato regionale, sia per quanto riguarda l'attività dei comitati di etica della pratica clinica locali, chiamiamoli così, è previsto espressamente che questi temi diventino il quarto obiettivo. Siamo convinti delle cose che sono state dette oggi e così convinti da proporre che diventino il quarto obiettivo dell'impegno dei comitati. E vi leggo come questa cosa noi l'abbiamo declinata nella delibera. Come titolo è che i comitati per la pratica clinica si occupino, oltre all'analisi dei casi, lo sviluppo di raccomandazioni e la formazione, anche, quarto punto, dei contributi alla riflessione sul tema della allocazione delle risorse, allocazione e impiego delle risorse. In fondo, che cosa è avvenuto? Il recepimento di quello che voi avete fatto. Probabilmente nessun altro comitato in regione lo ha fatto, oppure non lo ha fatto con la sistematicità e il rigore che ha contraddistinto la vostra impresa. Beh, se volete, il guadagno è anche per la rete regionale, è diventato il quarto punto di impegno. Quindi fra un po' di anni chi farà la relazione introduttiva come sintesi delle attività del vostro comitato di etica dovrà fare i conti anche con il quarto punto. Per quanto attiene al vostro impegno voi potete dire che noi l'abbiamo già fatto. Grazie. Grazie mille Camilla, adesso abbiamo anche un quadro generale, cerchiamo di essere in una rete e questo è sempre un grande supporto. E adesso allora abbiamo la parola al nostro direttore sanitario della nostra azienda ospedaliera che affronterà una tematica davvero molto importante, soprattutto dopo il quadro che ci ha veramente un po' impressionato col quale abbiamo iniziato questa mattina col dottor Dario, e che è proprio sull'etica dell'allocazione delle risorse. Prego, Gianluigi. Grazie, dottoressa professor Baggio. Non avendo la prestanza fisica di chi deve farlo, né i tacchi della dottoressa Chiozza, io proporrei di mettermi al di là di questo scatolone, perché altrimenti temo che faccia una figura un po' brunettiana. Bene, allora il tema di oggi, è stato poi il filo conduttore di quest'anno di lavoro che abbiamo fatto insieme. È un tema importante. Il dottor Dario mi ha tolto gran parte della fatica di presentare dati inquietanti, purtroppo molto realistici, e che danno un senso un po' alle cose che cercherò di condividere con voi in questa presentazione. Cercherò di stare nei tempi, ma giornata ferma in sé, vado, perché è una riflessione importante che dobbiamo fare insieme. Avrò un approccio molto semplice, a volte anche banale, ma è importante che condividiamo alcuni principi, perché altrimenti temo che il lavoro che facciamo non abbia molto significato. Partiamo dalle cose banalissime. L'etica, ci sono molteplici definizioni di etica, non si finirà mai di trovarne. Come si usa di questi tempi, sono andato su Wikipedia. Mi piaceva soprattutto il riferimento a un complesso di norme morali e di costume che identificano un preciso comportamento nella vita di relazione con riferimento a particolari situazioni storiche. Quindi il sistema di regole condiviso che si adatta ad un contesto, in particolare a una situazione storica. E abbiamo visto qual è la situazione storica che stiamo vivendo in questo momento. Le cose che ha detto il dottor Dario non sono cose lanciate così per far paura, sono numeri. I numeri possono piacere o non piacere, possono essere interpretati, ma sono quelli. E quindi, prima di cominciare a parlare, volevo condividere con voi una terminologia, perché è importante anche capire di cosa stiamo parlando. Quando abbiamo cominciato il percorso con il comitato di etico per la pratica clinica, abbiamo cominciato a porre l'attenzione sull'etica dell'organizzazione e poi sull'etica della allocazione delle risorse. In effetti ci sono due ambiti principali: uno è l'etica dell'allocazione e l'altro è l'etica dell'utilizzo delle risorse, che ho cercato di riassumere in questo schema in modo da poter condividere se siamo d'accordo su questi concetti. Il limite fra i due non è così netto, però insomma ci sono sicuramente livelli di responsabilità diversi. L'etica della allocazione delle risorse ha una valenza programmatoria, attiene soprattutto a chi definisce programmazione e controllo, quindi cominciamo dal Ministero della Salute, volendo anche la Commissione Europea, c'è sopra, le regioni, sicuramente le direzioni delle aziende. Non escludo che nella etica dell'allocazione delle risorse una qualche ruolo possono avere anche i direttori di dipartimento, il direttore di area complessa, anche i coordinatori, e riguarda soprattutto alcuni aspetti di carattere generale. Cioè, andiamo a individuare il numero delle aziende ULSS, il numero delle aziende ospedaliere, certo ha una sua implicazione organizzativa molto importante. Andiamo a definire una rete ospedaliera secondo un modello hub-spoke con un certo numero di ospedali, sicuramente ha un aspetto programmatorio. L'individuazione di quelli che sono i livelli essenziali di assistenza, anche questo ha un impatto sull'organizzazione, l'esenzione di ticket e così via. Ma non dimentichiamo che c'è anche un'etica dell'utilizzo delle risorse che attiene sicuramente a tutti, ma in particolare a chi poi nella quotidianità opera, che vuol dire, sono solo alcuni esempi, un corretto utilizzo delle sale operatorie, ma anche dei reparti di degenza, anche dei day hospital, anche delle attività ambulatoriali, le sale operatorie fossero più conclamate, il consumo del materiale monouso, il fatto di consumare i guanti, i fili di sutura, i presidi in un certo modo, l'uso dei farmaci a brevetto scaduto, quindi usare un farmaco genericato piuttosto che non una brand, ma anche, e qua sono veramente nel banale, quello che tutti noi abbiamo attenzione a fare a casa nostra, almeno spero, a non sprecare l'elettricità, a non sprecare il riscaldamento. Ricordate la pubblicità della Microsoft, quanto guadagni un cent per ogni attività, quanta attività svolgi, miliardi di transazioni al giorno. Questo è l'unico richiamo che faccio alla presentazione del dottor Dario, perché è importante riprendere il filo. Come vedete, negli ultimi anni c'è stato un trend in incremento del Fondo Sanitario Nazionale. Il 2013 si distingue perché è la prima volta che l'incremento non c'è, ma addirittura c'è un calo. Questo è un dato di fatto ed è importante. Voi pensate soltanto all'aumento dei prezzi, l'aumento dell'IVA che c'è stato, che ha un impatto su quello che è la spesa sanitaria, non parlo del resto. E quest'anno viceversa abbiamo un calo. Questa ipotesi di ripresa nel 2014 è legata a un'ipotesi di ripresa del PIL, della produzione in ambito nazionale, ma siamo fiduciosi, ma non sicuri che questo possa avvenire. Quindi qualcosa di nuovo sta accadendo, c'è stata un'inversione di tendenza. Voi sapete che la spesa sanitaria è una percentuale sul PIL, sul prodotto interno lordo, che non è una variabile indipendente. Perché il sistema sta andando in crisi, il welfare? Professor Chiozza citava l'approccio anglosassone, poi quello italiano. Il welfare ha sempre contraddistinto il mondo, non dico occidentale, perché negli Stati Uniti hanno fatto dei percorsi diversi, ma sicuramente un certo modo di far sanità, che è il modo inglese, il modo italiano, il modo di garantire sanità e sociale ad un'ampia fetta della popolazione. Noi lo garantiamo di fatto anche a chi non è residente, chi non è cittadino. Sicuramente è legata alla crisi economica, ma non solo. Queste cose le sappiamo tutte, le cito velocemente: l'invecchiamento della popolazione, il mito dell'immortalità in qualche modo, dell'eterna giovinezza, la cronicizzazione delle patologie, l'aumento continuo dei costi di tecnologie e farmaci, aumento dei costi che non sempre corrisponde ad una maggiore efficacia, ad una maggiore sicurezza di una superiorità rispetto ai precedenti, cambiamenti degli stili di vita, sicuramente questi influiscono, una certa predisposizione a sviluppare fattori di rischio, purtroppo ce l'abbiamo. Quindi fatte queste premesse, dobbiamo partire da una considerazione comune. Se non condividiamo questa, non andiamo da nessuna parte. Le aziende sanitarie erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, le UCSI, in un contesto di risorse limitate. Limitate non vuol dire poco, molto, vuol dire che sono limitate. Vuol dire che, come a casa mia, io devo basarmi sul mio stipendio per gestire la mia famiglia. E quindi, anche nella gestione della cosa pubblica, devo essere consapevole che c'è un limite alle risorse. Quali sono le conseguenze? Quindi abbiamo risorse limitate, che ripeto, non voglio discutere se sono poche o tante, limitate. Abbiamo un incremento della domanda, un incremento dei costi. I due soliti approcci sono quelli di dire: beh, raziono l'offerta, e quindi vado con un approccio dei tagli lineari, aumento le prestazioni per ridurre le liste d'attesa, continua la logica dell'ospedale sotto casa, nel senso di avere vicino una ipotesi di soluzione ad alcuni problemi, piuttosto che non andare ad una razionalizzazione dell'offerta delle prestazioni. E quindi, ma sono solo due esempi, lavorare sulla appropriatezza, sulla prioritarizzazione della lista d'attesa, sul triage, sulla rete ospedaliera SPOC e così via. Appropriatezza è un termine che usiamo spesso, ma dobbiamo avere ben chiaro anche cosa vuol dire. Vuol dire non solo fare la cosa giusta al paziente giusto, ma anche farla al momento giusto. Qui parliamo di liste d'attesa, qui parliamo di accesso al pronto soccorso, ma anche da parte dell'operatore più adeguato. E questa è una riflessione importante. Il trend delle professioni sanitarie, delle professioni mediche, sta cambiando drammaticamente. Voi sapete che quest'anno c'è stata un'ipotesi di dimezzare le borse di studio per le scuole di specializzazione da 5.000 a 2.500, e che vuol dire che fra qualche anno non solo non avremo medici, non avremo neanche specialisti. Per cui non riflettere adesso su un cambiamento complessivo della modalità di approccio all'erogazione di prestazioni sanitarie è cecità, non ha nessun altro tipo di e nel livello di assistenza più adeguato. Non basta fare bene la chirurgia, bisogna fare, si parlava prima di weak surgery, ma c'è la day surgery, c'è la chirurgia ambulatoriale. Se io continuo a fare le prestazioni in regime di ricovero che possono essere fatte in chirurgia ambulatoriale, non la sto lavorando bene. Magari faccio una buona prestazione, ma consumo risorse e sottraggo risorse ad altro tipo di approccio. Lasciamo da parte un attimo il problema della spesa, il concetto del costo, perché è deviante. E soffermiamoci invece su un'altra considerazione. Cosa vuol dire fare una prestazione inappropriata? Beh, innanzitutto vuol dire esporre i pazienti a rischi e disagi inutili. Quando ci siamo laureati, la prima cosa che facciamo nel giuramento di Ippocrate è dire che tuteliamo la sicurezza, non l'efficacia della prestazione. Quando facciamo uno studio clinico, andiamo a testare prima la sicurezza del nuovo farmaco, non da rischio al paziente, e poi l'efficacia. Ecco, fare una qualsiasi cosa, un test diagnostico, usare un farmaco che non dà beneficio, qualunque sia, seppur minimo, il danno è un danno inutile. E dopo usiamo la possibilità di erogare altre prestazioni che ne ha bisogno. Se io metto in lista d'attesa per fare un ecodoppio della carotide una giovane fanciulla con vertigini, non solo faccio una cosa inappropriata, ma costringo magari il paziente con UTI ad andare privatamente a fare l'ecodoppio delle carotidi. Banalizzo, ma bisogna capirci sulle cose che andiamo a discutere. Quindi soffermiamoci sul fatto che stiamo facendo un potenziale danno al paziente piuttosto che non uno spreco di risorse. Lavorare appropriatamente vuol dire tutelare il paziente oltre che allocare bene le risorse e utilizzarle bene. Quali sono i danni? Beh, i danni sono di due tipi, i danni diretti e i danni indiretti, in qualche modo. I danni diretti sono quelli banali che conosciamo, no? Perché c'è poca inappropriatezza nelle conoscenze. Perché è un esame fastidioso, perché è un esame che in qualche modo espone il paziente ai rischi. Ma i rischi sono legati alle reazioni ionizzanti, ai mezzi di contrasto, agli effetti collaterali dei farmaci, se parliamo di trattamento, alle interazioni tra i farmaci. Ma c'è un altro ambito che sono i danni da falsi positivi e sovradiagnosi di test inappropriati. Cosa sarà mai fare un ecodoppio delle carotidi in più? È un esame innocuo, bello, colorato, ma se poi alcuni di questi pazienti, se danno i numeri, vanno alla diagnostica invasiva, vengono esposti a dei rischi, al di là del rendere, come dire, medicalizzare situazioni che non hanno caratteristiche di patologia. E quindi spostare, non è banale, c'è letteratura su questo, c'è letteratura, quando abbiamo sui grandi numeri, anche esami che inizialmente sono banali portano poi anche allo sviluppo di chirurgia inappropriata, di trattamenti interventistici inappropriati. In questo momento stiamo discutendo se fare le TAC dei polmoni per screening del tumore polmonare. Ed è un problema non banale, perché se poi dopo io vado a operare pazienti che non hanno un'indicazione, non è una cosa da poco. Bene, abbiamo detto che siamo in periodo di crisi economica, abbiamo detto che le risorse rischiano di non bastare, condividiamo anche quelle che sono le modalità per aumentare le risorse. Se non sono adeguate, chiaramente dobbiamo lavorare per rendere adeguato. Sicuramente, visto che è una percentuale del PIL, se aumenta il PIL aumentano anche le risorse per la sanità. Visto le prospettive, faccio fatica a immaginare che ci siano grandi prospettive. L'Italia è un paese che produce poco, un paese che non riesce più a incrementare la produttività dell'Italia. Per cui quantomeno non lo darei per scontato che possiamo aumentare la produttività. Visto che non possiamo aumentare il PIL, possiamo aumentare la percentuale del PIL destinato alla sanità. C'è un piccolo problema, che questo si fa aumentando le tasse. Non ci sono altri sistemi. E voi immaginate in questo contesto cosa vuol dire aumentare le tasse. Al di là dei forconi, al di là di tutto, ma anche una famiglia di lavoratori dipendenti, che in questo momento è tutelata, comunque fa fatica a reggere questo tipo di contesto e non viene accettato. Socialmente non viene accettato. Per cui forse dobbiamo concentrarci su questo, sulla revisione organizzativa, sulla razionalizzazione del sistema, sulla riduzione degli sprechi. Sembrerebbe anche questo banale da fare, ma c'è un problema. Due problemi. ci vuole la volontà politica di farlo, la volontà veramente di impattare, e non sempre è così facile, ma non è solo colpa dei politici, è anche colpa di chi poi dopo induce i politici in vota. E il problema è la tempistica, perché queste sono cose che richiedono tempi. Il taglio lineare si fa in 5 minuti, metto la firma su un decreto, immediatamente dopo è operativo. Questo però è un problema che richiede tempo. Le modifiche organizzative spesso non hanno costi. Scusate anche la banalità, ma la cito spesso. Una volta c'erano i vigili dei crocevie, se beccavano l'inquinamento, costavano, dovevano farsi i turni, poi abbiamo scoperto i semafori, quindi abbiamo pagato meno personale, abbiamo introdotto e poi alla fine sono arrivati a Dordogne, dove tutto sommato si gestisce il traffico allo stesso modo, il costo della rotonda tutto sommato è abbastanza banale, non è il costo della manutenzione dei semafori, non è il costo del personale, e le cose vanno meglio. Ci siamo arrivati un po' tardi rispetto ad altri paesi, un po' anni fa andai in Francia e ne vedevo, c'era un strano, quello qua, che ho visto anche qui da noi. Ecco, questa è una metafora di come possiamo lavorare nelle nostre organizzazioni senza incrementare i costi, anzi riducendoli e migliorando l'efficacia e l'efficienza. D'altra parte, in termini di sprechi, facciamo un ragionamento anche, ricordate l'ospedale sotto casa, ancora una volta andiamo sui numeri. Questo è molto interessante, il Piano Nazionale Esiti pubblicato dall'Agenas, accessibile liberamente, andate sul sito, potete, basta registrarsi, e vi dà alcuni dati su tutti gli ospedali, non solo del Veneto, anche d'Italia, su come lavorano. Bene, ho scelto uno, interventi chirurgici per patologia esofagea, perché sono indicatori di un'alta complessità, ma no. Questo è quello che nel 2012 è successo nel Veneto. Voi vedete che in Italia si fanno 548 interventi per cancro dell'esofago, questi sono i dati del Veneto. Padova ne fa 44, Verona nei suoi due ospedali ne fa 21, l'IRCCS Iovo ne fa 18. Tutti gli altri. Questa è la classistica che fanno all'anno. Io personalmente, farmi operare di un cancro dell'esofago, speriamo di no, a Montebelluna piuttosto che a Vicenza, non ci andrei. Anche se abitassi di fronte all'ospedale di Montebelluna. Non serve bene. Andiamo avanti, possiamo discutere dei parchi, possiamo discutere. Quindi la rete HubSpot non è un concetto di risparmio. Quando la gente va in piazza si arrabbia perché vogliamo risparmiare sulla loro pelle. La loro pelle è questa, è questa. E la capacità del chirurgo di avere una classistica adeguata per poter dare la prestazione giusta. Questo bisogna dire alla gente, tutti insieme. D'altra parte il modello ospedale sta cambiando, anche qui scusate, una volta c'erano sotto casa i casolini, le infermerie, ognuno andava là, c'erano cioè, due parole, l'umanizzazione era molto forte, ce n'era uno ogni quartiere, adesso andiamo tutti quanti nei centri commerciali, ma perché? Perché abbiamo cose più fresche, più assortimento, c'è più qualità, c'è anche costi minori. Ecco, questo che accettiamo nel mondo anche dei cinema, il mondo sta cambiando così. Nel mondo dell'ospedale facciamo fatica. Ma l'accessibilità, ma non possiamo risolvere i problemi di traffico costruendo ospedali, evidentemente. Bene, un'altra domanda. Non la fermami quando siamo. Siamo sicuri che il problema è la spesa? Perché parliamo sempre di spesa, tetti di costo, taglio della spesa. Spesa è un termine neutro. Spesa non è né bello né brutto, né buono né cattivo. Il problema è se la spesa è un investimento o uno spreco. L'investimento è finalizzato a un obiettivo e spesso mi dà un ritorno positivo superiore alla spesa. Costruire una rotonda all'incrocio è una spesa. Ma se mi consente di non pagare i vigili, di non pagare e di ridurre gli incidenti, magari ridurre anche le polizze assicurative, sicuramente la faccio volentieri quella spesa. Lo spreco è affinalistico, non dà nessun ritorno. Per cui probabilmente, anzi, sicuramente dovremmo concentrarci su questo. È un po' la sindrome che abbiamo quando andiamo al supermercato e troviamo lo yogurt scontato, 50%, ne compriamo, lo mettiamo in frigo, il giorno dopo lo buttiamo via. Quei 50 centesimi per ciascuno yogurt è uno spreco, non è un'occasione, è la sindrome dei saldi, no? Quindi non dobbiamo concentrarci sulla spesa affinalistica, sullo spreco, dobbiamo concentrarci sugli investimenti che possono dare dei ritorni importanti. Quindi la spesa non più come puro atto da tagliare, ma come atto da analizzare in qualche modo. E d'altra parte i tagli lineari hanno un rischio. Se io, per esempio, mi pongo l'obiettivo ad un soggetto di ridurre il peso, questo signore, Fat Guy, sicuramente a 30 kg potrebbe essere un obiettivo anche banale, nel senso che dopo 30 kg sarebbe forse ancora sovrappeso, si parlava di forse l'obesità, no? Ma se io riduco della stessa quota 30 kg a questo signore, Usain Bolt, vincerebbe più le medaglie? No. Forse non sopravviverebbe neanche, perché qua vado a tagliare massa grassa, qui è massa magra. La logica dei tagli lineari, il rischio dei tagli lineari è questo. Ma perché andiamo sui tagli lineari? Scusatemi, ma sono banale, ma voglio condividere con voi alcuni concetti. Perché andiamo a tagliare invece che investire? Se siamo tutti d'accordo che dobbiamo evitare gli sprechi, i tagli lineari, che investire è bello. Per un fatto molto semplice, che c'è il problema del tempo che passa. E la nostra libertà di scelta, nel momento in cui abbiamo un obiettivo di bilancio, si riduce drasticamente nel momento in cui ci avviciniamo all'obiettivo. Se lavoriamo qui, quindi facciamo programmazione e controllo, definiamo gli investimenti, abbiamo libertà di scelta, abbiamo il tempo per arrivare a questi obiettivi. Ma se continuiamo a lavorare qui, vicini agli obiettivi, se le scelte politiche, gestionali vengono fatte sempre nell'imminenza della scadenza, è chiaro che l'unica possibilità è andare a tagli, perché per arrivare all'obiettivo ho bisogno di soldi subito. Non ho il tempo di lavorare sulla programmazione e qui non pago gli stipendi. Quindi è molto importante cambiare proprio l'approccio, e non è facile. Ricordate la diapositiva, qual è la criticità dell'approccio, della volontà politica e tempo. E questo è il problema. Dobbiamo sempre più spostare e vedere una prospettiva di medio lungo termine. Allora sì, possiamo programmare e investire, altrimenti siamo condannati a lavorare sui tagli. E quindi lasciamo che il tempo scelga per noi. Soddisfare i bisogni, sicuramente è una delle nostre principali missioni, le principali attività, ma soddisfare i bisogni cosa vuol dire? Purtroppo ancora adesso sento spesso dire che davanti a quel paziente, nonostante le linee guida e tutto, io devo fare il meglio per lui. Allora, posto che non so sempre cosa sia il meglio per lui, potremmo discutere di accanimento terapeutico, eccetera, eccetera, ma non possiamo continuare in una logica di approccio sartoriale. Io faccio il vestito bellissimo, ma lo faccio a quanti pazienti posso farlo e a quali costi? È etico farlo ai primi 10 che mi arrivano e gli altri si arrangiano? Ma gli ho fatto un vestito perfetto, bellissimo, che non fa neanche una piega. E gli altri? Il nostro compito è di prendersi cura di quei 10 che devo davanti e di tutti gli altri. Benetton non è più tanto di moda, ma per dire un approccio viceversa di basso costo, diffuso e così via, non voglio fare pubblicità né a mano né a Benetton, per dire che dobbiamo uscire dalla logica della prestazione sartoriale, il paziente viene ricoverato, visto che c'è, ti faccio anche questo, questo, questo e questo. Non possiamo permettercelo, e a volte non è l'interesse del paziente. Ma questo è fatto a tratto. Il codice di deontologia medica, questa è la Federazione Nazionale Ordine dei Medici, dice che il medico agisce secondo il principio dell'efficacia, non c'è dubbio, autonomia della persona, non c'è dubbio, ma tenendo conto dell'uso appropriato delle risorse. Non nascondiamoci dietro alibi. Non vi chiedo di leggerle le prossime due. Le prossime due sono soltanto per dirvi che di sprechi ce ne sono. Sono varie rassegne, varie leve, il 25% di sangue erotici, 330 milioni spesi di euro in medicina riservita alle farmacie, 25 giornate di ricovero, 100 giornate di ricovero e procedure cliniche inappropriate. Sono tutti dati che conosciamo, perché noi lavoriamo in ambiente sanitario, lo sappiamo. Lo sappiamo che sprechi ce ne sono. Sappiamo che solamente L'11% dei trattamenti descritti in ultima versione di clinica evidenza di dimostrata efficacia, che molte prestazioni non hanno beneficio, che molte prestazioni non sono appropriate. Forse sono esagerati, benissimo, se fosse vero la metà di questo, vuol dire che c'è molto spreco su cui intervenire, ma soprattutto molta inappropriatezza, molta sicurezza del paziente su cui lavorare. È per questo motivo che sono nate una serie di iniziative, che forse avete sentito nominare. Questa è nata dall'iniziativa del Choosing Wisely, scegliere saggiamente, che è nata dalla fondazione della National Physician Alliance degli Stati Uniti, che sono partiti con questo less is more, no? Su questa attenzione a dire siamo sicuri che fare di più è nell'interesse del paziente, forse fare di meno a volte è un valore aggiunto. E sono partiti da un approccio diverso, non do le linee guida su cosa fare, ma su cosa non fare. E quindi hanno cominciato a fare le top 5 lists nell'ambito della medicina generale, della medicina interna, della pediatria, nell'ambito delle quali la qualità delle cure può essere migliorata. Sono state pubblicate su riviste autorevoli come gli Archives of Internal Medicine e è stato dimostrato in questa prima release, qua siamo negli anni 2010-2011, che si possono risparmiare più di 5 miliardi di dollari negli Stati Uniti se le raccomandazioni venissero messe in pratica. Solo un esempio, ma voglio farvi. Non è necessario fare diagnostica radiologica per il mal di schiena, a meno che non ci siano dei segni neurologici che lo accompagnano. Non è necessario fare esami ematochimici di routine in pazienti sani asintomatici. Non è necessario fare un ECG o altri screening cardiologici per pazienti asintomatici a basso rischio. Non è necessario, se dopo dobbiamo usare le statine, usiamo statine a brevetto scaduto e non le ultime prescrizioni. Non si fa lo screening per l'osteoporosi con la densitometria in soggetti che non abbiano determinati criteri di inclusione. Queste sono basate su evidenze scientifiche, non sono cose che si inventano. E beh, si comincia a fare adesso, ormai le top 5 si fanno in tutte le specialità, cioè, ognuno a casa sua sta ragionando su come fare. E in Italia è nata, ve la cito per curiosità, ma è qualcosa più di una curiosità, anche da un paio d'anni, la slow medicine, che è una modalità di tradurre in Italia quelle che sono le considerazioni del less is more, del choosing wisely, la medicina sobria, rispettosa e giusta. Sono dei termini molto interessanti, come vi dite. Sobrio si attiene molto a questo momento storico, rispettoso, come ho parlato fino adesso, e giusto è un concetto sicuramente. Non è un'iniziativa di pochi scriteriati, nel senso che ha avuto la collaborazione della Federazione dei Medici, il Collegio degli Infermieri, la Società Italiana per Qualità e così via, e molte società scientifiche hanno dato la loro adesione, la stanno dando e stanno cominciando a ragionare secondo questo approccio. Il rischio poi di arrivare all'estremo. Il disease modeling è il creare patologie dove non ci sono. Qui siamo già nell'ambito della truffa, in qualche modo. Questo è finalizzato a indurre l'utilizzo di farmaci, l'utilizzo di diagnostiche, ed è una cosa tutt'altro che imperare. Si sta cominciando a lavorare in questo senso. Per farvi sorridere cito una pubblicità che forse avete sentito, spunta un dentino, ricordate, il laboratorio Bologna, che dicevano: quando il vostro figlio deve superare questa difficile prova, portatelo dal pediatra. Pubblicità che purtroppo è usata e quello che non farci. Vado a concludere. La crisi che stiamo vivendo è un momento difficile, però è anche un momento interessante. Questo è l'ideogramma cinese che indica la parola crisi. È formato da due significati. Il primo è il pericolo, non chiedetemi quale dei due, ma vi assicuro che è vero. E il secondo è l'opportunità. Il cinese vede nella crisi un pericolo, ma anche un'opportunità, perché spesso è la crisi che diventa il motore del cambiamento. Spesso quando le cose vanno bene ci sediamo, stiamo tranquilli. Ma senza andare in Cina, ricordatevi, noi abbiamo radici classiche, che in greco crisis vuol dire decisione. Quindi è il momento di fare le scelte, di decidere. Ma non solamente al Ministero, anche nella nostra azienda. Quindi, Abbiamo cominciato a lavorare su programmazione e controllo, abbiamo pubblicato l'atto aziendale che è in approvazione alla regione, abbiamo definito, vado velocemente perché abbiamo già visto, quelli che sono i valori dell'azienda, valori che sono il filo conduttore della nostra azione quotidiana, sono la centralità della persona, l'equità, la qualità dell'attività assistenziale amministrativa, la didattica, la formazione, ricerca e innovazione, trasparenza, eticità e sostenibilità. Non sono parole messe a caso qui, sono valori in cui crediamo, scelti, valori che devono in qualche modo ispirare anche le nostre azioni quotidiane, altrimenti è tempo perso. Non li cito tutti perché volevo andare a chiudere, e fare due riflessioni sulle sfide per il futuro. Tre. La prima, la formazione universitaria. Il professor Beccherini diceva che il comitato della pratica clinica ha fatto molta formazione. Io dico che bisogna insegnare a nuotare quando è piccolo bambino, quando bisogna insegnare a andare in bici, quando è piccolo è più facile. E quindi probabilmente durante il corso di laurea, durante i corsi di specializzazione vanno trattate tematiche relative alla bioetica, al management, altrimenti dopo diventa difficile, molto più faticoso. La seconda sfida, giusto per citare, non è una fantasia mia personale, New England Journal of Medicine pubblica settimanalmente su questa tematica, su come è importante modificare l'educazione medica per insegnare la cultura sanitaria. Poi dice appunto che anche negli Stati Uniti la professione medica non è riuscita a essere alla pari con i cambiamenti politici e con le necessità. Ci sono continue editoriali in questo senso. Negli Stati Uniti è un dibattito importante, da noi bisognerebbe cominciare a discutere di queste cose, perché altrimenti si fa molta fatica dopo. Il secondo punto è riuscire a declinare le tematiche della bioetica, la responsabilità etica, in modo capillare, non deve restare appannaggio di un gruppo di specialisti, e questo è lo spirito che anima anche il comitato etico della pratica clinica, ma i valori, ripeto, devono andare a penetrare in azienda profondamente, altrimenti non servono a nulla. E il terzo, creare una forte alleanza con il mondo non professionale. Se noi diciamo che gli ospedali piccoli vanno chiusi, se noi diciamo che le liste d'attesa vanno gestiti in un certo modo, l'unica lettura è standard, vogliono risparmiare per aumentarsi gli stipendi, questo è lo standard. No, il messaggio deve nascere da associazioni, dai sindacati, dai media, perché l'obiettivo è comune e deve essere condiviso. Se le cose vengono dette da tutti, probabilmente il messaggio passa più facilmente. Concludo con una considerazione. Fino adesso voi mi direte, hai parlato di management. Sì, in un certo qual modo sì, ho parlato di management, ma management cosa vuol dire? Vuol dire consapevolezza, sicuramente, queste cose bisogna discuterne, parlarne, vuol dire gestione, gestione mi piace di più, management fa pensare alla Bocconi, fa pensare ai corsi, fa pensare a qualchedun altro che fa qualcosa di diverso. La gestione la facciamo tutti quotidianamente, al lavoro, a casa, non possiamo, non è altro rispetto al nostro modo di essere. Quindi consapevolezza, gestione e etica dell'organizzazione. Grazie e buona presenza. Grazie, dottor Canavito. Grazie a tutti. Restano poco di queste non dare questa mattinata 15 minuti di discussione. Io chiedo a tutti i relatori di venire purtroppo qua, ho visto che le sedie sono sufficienti, e prendiamo alcune domande che naturalmente devono non superare, io le cronometro, non superare i 3 minuti ogni domanda. 3 minuti a domanda. Allora, siamo tutti un po' pietrificati dalla ricchezza, secondo me è stata una mattinata estremamente ricca da tutti i punti di vista. tanto che